Ciao a tutti e benvenuti al 12° episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi, insieme al sottoscritto, come sempre raffreddatissimo, Davide Moretto, abbiamo il viaggiatore Andrea Maderna. Ciao, tra l'altro mi si sta tappando il naso in questo momento. Perfetto. E, dopo poco più di un anno, anzi poco meno di un anno dalla sua prima comparsata qui al Tentacolo Viola, abbiamo di nuovo l'onore e il piacere di ospitare direttamente da singleplayercoop.com Ferruccio Cinque Mani. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Per una volta non sono una sostituzione dell'ultimo momento. Ah, oh, era stato un errore di tempistiche quello dell'anno scorso. Certo. Però in un certo senso comunque sostituisci Cego, per cui dai. Ecco, difatti volevo dire che purtroppo oggi non abbiamo con noi il buon Paolo Cego perché è impegnato in cose molto più importanti che un podcast di videogiochi, ma speriamo di averlo la prossima volta, sempre pimpante come al solito, anche perché dobbiamo discutere del film che io e Andrea ci siamo sucati Triangle. Che comunque appunto ne discuteremo con la giusta attenzione quando ci sarà anche Paolo e una sbarra cromata da tirargli in testa comunque. E invece, siccome Ferruccio è un padre degenere, è qui con noi. Esattamente. Eh sì, io non c'ho tutti questi scrupoli quando insomma mio figlio sta mai, cazzo me ne frega. Peraltro, Ferruccio, vorrei ricordarti che tu l'anno scorso hai chiuso la puntata citando un verso del testo della canzone di Sanremo di Pupo e del Principino lì. Credo che sia una di quelle cose irripetibili, insomma. Sì, ma ti saresti mai immaginato che a un anno di distanza saremmo stati messi così male? Peggio? No, ecco, la cosa bella è che stiamo messi peggio. Andando avanti così, il prossimo anno, che è anche 2012, insomma... È la fine del mondo, insomma, ci stiamo preparando, ma andando avanti così non lo so, arriverà Cthulhu forse. Ma magari arrivasse Cthulhu, almeno la facciamo finita queste geometrie distorte. Va bene, allora io direi di iniziare se siete entrambi d'accordo. Quest'anno, mentre l'anno scorso, il 2010, è stata l'annata del motion control, Kinect, Move, eccetera, eccetera, quest'anno probabilmente sarà l'annata dei nuovi portatili, perché Nintendo tra poche settimane lancerà sul mercato il suo nuovissimo Nintendo 3DS e Sony finalmente ha svelato il piano segreto del dominio del mondo dei portatili con la PSP2, che hanno chiamato NGP, insomma un acronimo, io lo chiamerò PSP2 perché mi piace più, anche perché l'altro non me lo ricordo. Sì, ma poi è comunque un nome ancora provvisorio, credo, NGP. New Game, che sta per Next Generation Port, no? Sì, Next Generation Piracy, credo sia. Io direi, se siete d'accordo, di partire direttamente dalla PSP2. Appunto, Sony ha presentato una settimana fa e faccio velocemente un breve assunto delle caratteristiche tecniche: touchscreen OLED da 5 pollici, touchpad posteriore, due analogici, un sacco di pulsanti, processore quad core, scheda grafica della Madonna. Due telecamere, il microfono, giroscopio, accelerometro, e credo che abbiamo finito, perché insomma e però abbiamo finalmente abbandonato il supporto orribile che erano gli UMD per probabilmente delle schedine di memoria tipo come memory stick, insomma flash. Sì, roba del genere, roba super proprietaria, quindi... No, probabilmente useranno qualche modifica delle memory stick, suppongo. Sì, ma credo che useranno una modifica hardware, perché sennò sconfiggeranno la pirateria. Esattamente. Ferruccio, tu che insomma sei una persona abbastanza vicina alla Sony. Sì, ho delle azioni. Esatto. Come loro vendono di più, sono sempre felice, faccio i soldi. No, no, vabbè, io in realtà non neanche sapevo di questo evento, l'ho sentito dopo insomma circa un giorno, quindi il mio interesse era zero, assolutamente, di una PSP2 non me ne fregava una beneamata mazza, eppure appena ho visto la presentazione, devo dire la verità, Curcidito qualche parte del... Sì, la compro al lancio sicuramente. Addirittura. ma sì. No, mi sembra un... Allora, io c'ho un problema fondamentale con le console portatili, no? che avendo un iPhone e avendo anche un cellulare Android, ormai gioco, quando sono in giro, gioco le minchiate, quelle robe lì tipo Cut the Rope, Angry Birds e queste cose qui. Non so se nel 2011 sia più il tempo delle console portatili. Beh, però questa qua con il touchscreen e tutte le altre menate... No, infatti dico, a parte questo dilemma così proprio concettuale, no? Alla base di quello che sono queste console portatili, se, tolto quello, credo che non potessero fare di più, cioè su questa console dovrebbero poterci girare le mega produzioni, si parla addirittura di giochi praticamente indistinguibili da quelli PS3, sì. Però anche le stronzatine, anche Cut the Rope, appunto, sì convertite da iPhone o quello che sia, quindi... e che costeranno 5 euro come su PSP, invece dici dei 90 centesimi, vabbè, però scusa, c'è, cioè, braccine corte, già 5 euro non sono molto, no, è che però fa tristezza che sia su PSP che su DS arrivano le conversioni di giochi iPhone da 70 centesimi, le fa pagare 5 euro, cioè c'è qualcosa di profondamente... Ma se ti ricordi tipo un anno fa le facevano pagare anche 30 euro, cioè... Beh, FIFA 11 su PSP costa 39 euro, sì, ma è FIFA 11, non è Cut the Rope, cioè nel senso sì, non so per cosa pagherei 40 euro fra i due. No, ok, vabbè, però il problema è che è lo stesso gioco dall'altra parte, identico, costa 70 centesimi. Vabbè, comunque, insomma, io no. posso dire che vengo da 3 giorni in cui ero in trasferta circondato da malati di tecnologia che non facevano altro che parlare di questo. PSP, cellulari, il futuro, no, PSP morirà perché viva il cellulari. E erano tutti fissatissimi su quello che ha detto Ferruccio, sul fatto che ormai, ma chi se ne frega della PSP quando tutti giocano e possono giocare col telefono. Però posso anche contraddirmi sul momento e dire che alla fine questi giochini del cellulare, io non so quanto, cioè io ho visto che all'inizio quando ho ricevuto l'iPhone, perché non pagherò mai per un iPhone, però quando ho ricevuto l'iPhone ho detto figata, dai, scarico questi giochini, così poi insomma non è che ci gioco più tanto. No, sicuramente, ma infatti ovviamente Sony punta su chi vuole i giochi tra virgolette seri da portarsi in giro, perché su iPhone non ce l'hai, che ne so, God of War, per dire. Anche se ormai i nuovi modelli di telefoni, perlomeno a livello grafico, anche se poi c'è sempre il problema che manca il pad, però a livello grafico cominciano, secondo me fra 2 anni, tecnicamente, penso che tecnologicamente ci saranno telefoni che fanno cose se non pari, che però a livello di percezione siano abbastanza paragonabili a quelle di PSP2. Dead Space, vabbè, con PSP2 non lo so, però il Dead Space per Portal, esempio, sì, che sì. È uscito adesso, è impressionante a livello tecnico, su iPhone. Quindi, sì, ma alla fine è una questione di target, penso, perché è ovvio che la gente che si accontenta di giocare con l'iPhone probabilmente non gli frega niente della PSP2, anche perché non fa da telefono, che voglio dire è la cosa che magari potrebbe farti dire ah, cazzo, fa da telefono, però è molto più figa dell'iPhone per giocare. No, non lo fa da telefono, anche perché... Ma sennò vogliamo dire anche quello che ha fatto, perché poi se Sony faceva una cosa troppo semplice la gente capiva, poi si sentivano pure un po' male, no? Cioè, allora hanno detto vabbè, presentiamo sta cosa che è molto semplice come concetto, la PSP2, però presentiamo anche un cellulare fatto con Ericsson che si chiamerà pure PlayStation, però non è la stessa. Si chiama, credo, Sony Ericsson Xperia Play. Sì, una cosa che di una complessità imbarazzante. Che praticamente è una PSP1, perché come sì. C'è anche il pad sotto. Ma fa girare anche i mini. Sì. Però loro hanno fatto un'altra cosa, loro hanno fatto anche la PSP Suite, che è tipo una serie di specifiche, di caratteristiche, secondo cui tu devi fare il tuo telefonino se vuoi che ci giri il PSN. Quindi nella loro idea ci sarà il sistema, il negozio che online PSN. Il cellulare HTC che fa anche quello. Esatto, su cui oltre ad avere l'App Store suo, puoi accedere anche a PSN e scaricare quindi PSP Mini, o addirittura se il tuo hardware lo supporta, che ne so, il gioco PSP che sta su PSN. Ma fa anche girare giochi Android. Esatto. Sì, perché fondamentalmente, ma sì, io credo che loro abbiano preso un Android nell'ultima versione, abbiano comprato i diritti degli emulatori fatti come Homebrew dai ragazzotti, l'emulatore di PS1 per esempio, e l'hanno messo lì dicendo che la PlayStation Suite, perché adesso ci sono gli emulatori di PSX, su Android funzionano alla grande proprio. Ah, vabbè, sono portati pari pari da quello PSP, però insomma, cioè veramente Sony, io non, vabbè. Vabbè, loro stanno provando a mettere il piede un po' in tutte le direzioni, e poi probabilmente se ci sarà una generazione successiva di PSP, secondo me a quel punto sarà anche un telefono, perché cioè ormai stanno cercando di far convergere tutto quanto. Il problema della PSP2 è che però è vero che appunto ci sarà una fascia di gente che vuole giocarsi God of War, Final Fantasy eccetera portatile, quindi se la compra, però secondo me comunque in linea di massima la gente a cui si rivolge è abbastanza simile alla gente che c'ha l'iPhone, che gioca con l'iPhone, mentre il 3DS tutto sommato se la può anche giocare sul fatto che Nintendo vende alla nonna, alla zia, al cinese, alla casalinga, eccetera. Però da quello che insomma si è visto online, almeno da quello che ho visto io, il modo in cui è stata ricevuta sto ricevuto l'annuncio di PSP2 è stato abbastanza esaltato, la gente stava lì a strapparsi le mutande. Però era così anche con la prima PSP, che ha venduto benissimo, ma comunque è stata seppellita dal DS. Non col 3DS. Sì, ma ma appunto, quando sono stati annunciati DS e PSP, i nerd, la gente online era: "Wow, figata la PSP, spaccherà il culo a tutti!" Ha venduto bene, perché comunque ha venduto decine di milioni. Però il DS le ha mangiato in testa. Sì, ma perché il DS l'ha comprato quelli che non i nerd, ma tutto il resto delle famiglie del mondo. Esattamente, e per questo dico, cioè le reazioni online probabilmente testimoniano il fatto che comunque la PSP2 sarà un successo, ma non è detto che il 3DS non le mangi in testa esattamente come è successo. Beh, però secondo me non lo so, io non vedo grossi punti deboli nella PSP2 come li poteva avere la PSP, con insomma, forse con un po' di lungimiranza si poteva capire all'inizio che l'UMD non era Beh, poi comunque Sony adesso parte da una posizione diversa, perché prima si inseriva in un mercato in cui c'era solo Nintendo, adesso comunque una fetta di mercato ce l'ha. Sì. Però, scusate, no, volevo chiedere, ma voi ne sapete nulla? Mi riallaccio senza nessuna eleganza al discorso del telefono di poco fa. Sì. Ma voi avete idea? Perché questa NGP avrà la connessione 3G. Sì. Alcune, che cazzo vuol dire? Un modello, vuol dire magari che... è tipo l'iPad, non c'è anche l'iPad, ma comunque non è telefono. Esatto, ci giochi, magari se vuoi giocare online ci giochi dove cazzo vuoi, però non telefoni. Sì, o le applicazioni che sfruttano la connessione a internet, però non puoi telefonare. Esatto. Quindi ti fai fare una scheda apposita e paghi con il tuo gestore telefonico, perché invece avevo sentito che forse Sony, almeno in Giappone, farà una specie di cosa di tipo tariffa. Amazon. Sì. Oh, ma quello sarebbe può essere sì, solo che quanto te la fanno pagare, perché insomma sì, Amazon in Italia, scarichi il libro, sono tipo un megabyte quando il libro è lungo, è Guerra e Pace, un megabyte comunque anche solo per il fatto di farti accedere al PSN dovunque tu sia, buttala come cosa, voglio dire. Sì, beh, quello andrebbe a loro giovamento, perché tu hai sempre la possibilità di cacciargli i soldi comprandoti il giochino. Esattamente. Ma però secondo me già è un miracolo che Amazon riesca a far usare, cioè che tu non debba pagare tu Vodafone, Tim o altri gestori per usare il Kindle, quindi. Ma guarda, io ho sentito che le tariffe, cioè tipo ad Amazon costavano tipo 5 megabyte, costavano un euro o una cosa del genere, un sacco, proprio tantissimo. D'altronde è anche 50 centesimi, comunque sempre sta cifra. Sì, una follia, moltiplicata per tutti gli utenti, insomma. Ma io invece penso, allora, a me la PSP2 non pensavo ci mettessero tutta questa tecnologia dentro, sinceramente, credevo andassero un po' più sul soft, invece qua proprio hanno esagerato, secondo me, e anche il fatto comunque che esca a fine anno, probabilmente, voci incontrollate, si parla di prima di Natale, almeno per il Giappone, quindi... ci sta che quella tecnologia poi venga venduta a un prezzo quasi umano. Secondo me un prezzo quasi umano per questo affare sono 350 euro, perché è troppo potente. Io dico 400 senza 3G. Ma non te la... ma secondo me 400 proprio non ne vendono neanche il signor Sony se la compra 400 euro. Io la comprerei. L'iPad non è che costi poco, eppure ne hanno venduti. Sì, ma l'iPad è una cosa Apple. No, per carità, però insomma. Cioè, c'è gente che io anche a me piaceva, solo che costava troppo, però c'è gente che se l'è comprato e cosa fa? Ci naviga su internet e basta, non lo usa per scaricare un gioco, non ci fa niente, ci naviga su internet a casa, va bene, però c'è un computer. Lì tanto il brand, Sony non ha quella forza, non ce l'ha più, ce l'avrebbe avuta dopo PlayStation 2, secondo me non ce l'ha, e poi bisognerà vedere anche i giochi, che tipo di offerta faranno, secondo me, perché va bene il giochino da 5 euro, però veramente adesso come pensa di fare Nintendo a mettere sul mercato giochi da 60 euro per un portatile, secondo me siamo proprio fuori dalla grazia del Signore, cioè. Lì è la scommessa di fare ancora oggi, nonostante l'esistenza di iPhone, la console portatile con i giochi tradizionali grossi che richiedono investimenti, che quindi devono costare almeno. Sì, infatti, cioè, se poi addirittura io ho sentito dire, queste sono altre voci incontrollate che girano. In Svezia. Che girano solo lì, tra l'altro. Per strada in Svezia, così si dice. L'uomo della strada mi ha detto che Sony sta facendo pressioni sugli sviluppatori, sta dicendo: cari sviluppatori, amici, vi abbiamo rapito i figli. Adesso vi piace questa NGP? No, ha detto: se volete fare conversioni da 360 e PS3, fate pure. Perché a quanto pare è abbastanza facile, quindi sembra che stiano, cioè, quando uscirà Dead Space 3, in teoria dovrebbe essere PS3, 360 e NGP. Praticamente lo stesso gioco. A quel punto mi sa che è normale che ti chiedano 50 euro. Sì. Ma come ne chiedono 40 adesso per Ghost of Sparta appena esce, voglio dire. Cioè. Sì. Ma secondo me però poi ci sono giochi, come dicevamo prima, che sono quasi simili, ma non prendiamo proprio un Cut the Rope, che è un giochino, però giochi dove c'è un team molto grosso e comunque su iPhone avranno un costo minore che non su altri sistemi, e io non riesco a capire come sia possibile mantenere, come utente, come acquistatore di giochi, cioè non riesco proprio a capire, a me sembra di essere fregato a spendere 10 volte lo stesso titolo. Ma stai continuando a ribadire il concetto, cioè questi ci provano, se non funziona evidentemente è finita l'epoca delle console portatili tradizionali. Poi guarda, c'è anche un motivo se quando vai sull'App Store vedi che c'è la classifica dei, come si dice, top grossing, i giochi che fanno fare più soldi, sono solo i più venduti, ci sono anche quelli col maggior più remunerativi. E il motivo è che tutti stanno tentando di alzare un po' i prezzi, o comunque perché sta corsa ai 99 centesimi ha inculato un po' di sviluppatori. Comunque non, cioè, a EA non sta bene sta cosa. No, guarda che qua ti smentisco perché la notizia l'ho letta 5 minuti prima di iniziare a registrare, pare che abbia dichiarato che i suoi maggior profitti sono derivati quest'anno dal mercato mobile. Lo so, ma loro hanno tutti i primi 10 giochi venduti per iPad, sono tutti EA, però il fatto è che loro sono i primi che stanno spingendo per fasce di prezzo tipo 7 euro, 10 euro, insomma, se scarichi Mirror's Edge per iPhone sono 4,90, 5,90, cose del genere. Sono i primi che stanno tentando di alzare un po' via dai 90. Sì. Anche se poi sotto Natale fanno tutte le offertine che stroncano i piccoli. Non mi dire niente che ho speso su Steam una quantità oscena. Non mi parlare di offerte di Natale, per favore. Io ho comprato FIFA ben 2 giorni prima che lo mettessero a 79 centesimi. Ho pagato ben 2,99 euro, porca troia. Che già mi sembrava poco. Comunque io ribadisco, secondo me la scommessa vera è la PSP2, perché comunque il grosso della gente che compra il DS credo sia anche la gente che compra il DS con, esempio banale, il DS con Brain Training e non compra nient'altro, e quindi gli va anche bene pagarlo a quel prezzo, perché tanto, cioè, per lui il DS è Brain Training, è finita lì. Io invece su 3DS, che prenderò anch'essa al lancio, è già prenotata, per un prezzo osceno, vicino a, cioè, siamo parenti di 600.000 lire, cioè quasi 300 euro comunque, Dove l'hai prenotato? Cioè, dove... Ciccio, io vivo in Svezia. Sì, ma che c'hai dei spacciatori 3DS? No, qua c'è un solo distributore, insomma. C'è sta all'angolo di strada, quelle cascate dai camion. La solita 3DS, 3DS, 3DS, voi 3DS, io do 3DS. Esatto. Cos'è il... Insomma, il 3DS io non lo so, se secondo me non è automatico che avrà lo stesso, ma neanche paragonabile al DS. No, non è assolutamente automatico e non è scontato. Io però tendenzialmente mi sono abituato a dare un minimo di fiducia alla capacità di Nintendo di vendersi, soprattutto in ambito portatili, perché cioè, voglio dire, è la terza console portatile di fila, senza contare le mille versioni in cui spacca tutto quello che è possibile spaccare, per cui un minimo di fiducia gliela do. Poi perché ogni volta diventa la console più venduta della storia. E tra l'altro a un certo punto hanno detto, ma sai che proviamo a fare la stessa cosa anche a casa e vedi un po' che hanno combinato con lui, per cui voglio dire. Ma difatti però mentre la base installata vogliono colonizzare Marte e mettere su un nuovo pianeta, terraformare un pianeta. Però quando hai paragonato il 3DS a lui un po' mi è scesa la tristezza. Beh, ma non credere che sarà tanto. Voglio dire, cioè, la lineup di lancio del 3DS sono le conversioni di giochi apparsi su altre console, le nuove versioni dei vecchi giochi Nintendo e basta. Stai facendo pentire di quello. Però è quello, cioè, si sa no, che so. La nuova console Nintendo c'ha queste cose qui, non c'è niente da fare. Poi figurati, a ogni nuova console c'è più gente che dice, ma sai che ci faccio anch'io la conversione del mio gioco, magari vendo 20 milioni di pezzi. Ma ecco, Ferruccio, visto che l'hai già prenotata, il fatto che, così almeno non puoi più tirarti indietro, ma il fatto che il 3D sia meramente accessorio a questo punto, perché non c'è, col fatto che tutti i giochi devono permettere di disattivarlo, non ci sarà mai un come si dice, un gameplay basato sul 3D. Questa cosa non ti, cioè, a me fa sembrare un Nintendo DS molto più potente con un affare in 3D giusto per stuzzicare il palato della moda attuale, che c'è 3D ovunque, quindi lo mettiamo anche nella console portatile senza occhialini, perché noi siamo veramente molto più fighi degli altri. Cioè, non ti sembra una vaccata sto 3D così? Sì. Cioè, mi sembra comincia un poco a svanire, secondo me, il senso del 3D. Cioè, vabbè, magari potrà aiutare, che so, penso ad un platform, magari vedi meglio un platform in 3D, vedi meglio le distanze, non lo so, potrebbe avere qualche ripercussione sul gameplay, però il fatto che non ci possano essere concept basati sul 3D mi sembra un poco, e mi sembra, sai cosa, anche un po' è una cosa che mi fa preoccupare un po' su quanto effettivamente questo 3D sia pratico e funzionante, possa cioè non dia fastidio. No, ma dà fastidio, allora dipende da persona a persona, a me tendenzialmente non dà molto fastidio, ma voglio dire, è pieno di gente che c'ha mal di testa guardando il film al cinema, eccetera. Aspetta, io al cinema quando vedo il 3D mi viene uno strabismo, mi sento gli occhi che si incrociano. A me non succede, però poi è una cosa che, come si dice, si accumulano vari strati. Se sei uno che soffre di motion sickness, il 3D t'ammazza proprio. Quindi voglio dire, è chiaro che devi fare una roba che possono usare anche i poveretti, che se gli metti davanti un gioco in 3D gli viene un vomito. No, poi ho letto e ho sentito in giro, da chi l'ha provato ovviamente, che il fatto che tu debba stare molto molto perpendicolare allo schermo in una posizione abbastanza precisa fa sì che già solo il muovere la mano, cioè giocando con una mano sola e con l'altra col pennino, i movimenti del polso un po' più forti del solito, o mi faccio un esempio, essere in metropolitana o in pullman, cioè dei posti dove ci sono, qua a Milano per esempio ci sono delle buche che sembrano la fossa delle Marianne, il 3D va, viene. Secondo me un po' si esagera adesso nel dire questa cosa, però effettivamente è vero, cioè se ti metti davanti lo vedi bene, se lo ruoti un pochino l'effetto svanisce. Io ogni mattina prendo un treno che mi porta a lavoro in una ventina di minuti, e questo treno può essere in due maniere: ci sono le carrozze nuove che sono fighissime, vanno lisce come l'olio, e poi ci sono quelle tipo del 1983 che invece sono un po' la versione rally del treno, e questo non c'è nessuna logica, no? Cioè, ogni tanto ti capita la carrozza nuova, altre volte quella vecchia. Questo vuol dire che posso giocare al 3DS solo, non lo so, a giorni alterni. Negli altri giorni arrivi con un mal di testa terrificante a lavorare. Ma no, in treno tu giochi con l'iPhone, il 3DS ci giochi a casa, prima di addormentarti con la bajoura accesa dietro. Esatto. Io c'ho un figlio, non è che posso stare con le luci accese, eh? Vabbè, dai, il 3DS è retroilluminato. Questo è vero, è una gran cosa. Dopo che hanno fatto perdere 80 diottrie con il Game Boy Advance, hanno capito che mettere una luce dietro lo schermo era cosa buona. Io tra parentesi sono quasi veramente diventato cieco col Game Boy Advance, il primo, quello non retroilluminato, che se tu stavi alla luce e c'era l'effetto specchio del... perché dello schermo, se tu ovviamente stavi alla meno luce non vedevi un cazzo, quindi veramente una genialata. Comunque, scusa, faccio una mossa tipo Ferruccio poco fa, mi inserisco una roba che c'entra fino a un certo punto. Mi hanno fatto notare una cosa in questi giorni in cui ero via, di cui forse non si era accorto nessuno, ma la PSP, cioè quella vecchia, quella che adesso viene chiamata PSP 3000 nei comunicati ufficiali, la gente non ci ha fatto troppo caso perché sono usciti God of War e Metal Gear Solid, ma tolti quelli è diventata una console per bambini, sono usciti solo giochi per bambini, è uscito addirittura il mondo di Patty, quindi hanno provato anche la via delle bambine. E adesso Sony, soprattutto col fatto che lanciano la nuova PSP, considera PSP la console su cui buttano fuori i giochi per bambini. Ma è sempre così alla fine del ciclo di vita di una console, no? Cioè le robe che sono uscite per PS1 e PS2 nell'ultimo periodo erano robe terrificanti, cioè sì. È una roba che è Giulia Passione, cioè è una produzione di primo livello. Uno degli ultimi giochi per PS2 c'era un tizio chiamato Kratos, cattivissimo, Infatti su PSP è uscito God of War di recente, in mezzo al mondo di Patty e gioca con Barbie. È il segno della povera Patty. Se c'è Kratos che ti insegue. La riempie di calci in faccia. Sì, e di molte altre cose peggiori. quindi facendo così, io credo, temo, perché non sarei contento, ma che temo che anche il 3DS farà un successone. Nonostante riproponga... Sai cosa? Sarà la prova, cioè adesso vediamo effettivamente se questo nuovo mercato aperto da Nintendo effettivamente è un vero nuovo mercato, era soltanto il DS in sé o il Wii in sé, vediamo se effettivamente questa gente poi passa da una console all'altra. Questo sì, è una cartina tornasole, però secondo me lo vedremo più con il successore del Wii. Che io ho veramente paura di questo. Comunque se dobbiamo credere che sono stati comprati non dagli hardcore gamer, penso che i dati di vendita di Move e Kinect un minimo in quella direzione parlino, no? Non hanno venduto entrambi molto bene. Sì, subito sì, poi mi sono disinteressato della cosa e non ho parlato. Però per esempio io Move l'avevo comprato con iPad e mi ha fatto cacarone, ma perché c'avevo qualche problema tecnico in casa con la luce evidentemente, invece giocandoci con Sport Champions mi sono divertito come un cretino, e questi dementi che non hanno messo il gioco online, cioè io adesso aspetto solo, che ne so, un Virtua Tennis o un Top Spin 4 per tentare di distruggere casa col Move. Sì, il ping pong è qualcosa di ping pong è bellissimo. È bellissimo. Sì, veramente sì. Però bisogna... comunque lo sport più bello del mondo, io lo dico l'occasione. Ma perché Rockstar non pubblica per Move il suo ping pong, che era una cosa fuori dalla grazia di Dio? Ma magari lo fanno, che ne sai? Dagli tempo. Rockstar alla fine converte pure, non lo so, la lista della spesa, cioè loro pure se fanno un programma per una calcolatrice la portano su Mac, cioè, quindi non lo escluderei, E quello sarebbe una gran cosa. Comunque su Move bisogna dire che, cioè, adesso non è esattamente uscito Killzone, anche se arriverà, però non è esattamente come su Kinect, dove sono usciti 82 giochi copiati da Wii Sports e praticamente nient'altro. Cioè, alla fine la roba che è uscita con Move, brutta, quasi tutta brutta, però è un minimo più, come dire, di traverso fra il gioco. Ti vorrei smentire perché l'unica uscita di nota in questo periodo è Dead Space Extraction, che è una conversione da Wii. Sì, no, vabbè, però è un gioco che interessa comunque ai videogiocatori, non interessa a mia zia. Anche perché avrebbe un infarto. Non lo so, non la conosco, può essere che gli piace. No, nel senso, non è anche The Fight, con tutti i problemi che c'ha. Però non è il gioco per la nonna che compra il Wii. Non so se, come target, guarda anche le pubblicità. Poi per carità arriveranno, tutta quella valanga di giochi per famiglie che ci faranno venire la pellagra. Però al momento Sony, anche a livello di marketing, eccetera, sta puntando un sacco sul fatto che adesso la metà dei giochi tradizionali che pubblicano hanno il supporto per Move, tutti gli sparatutto. Sì, è vero, quello è vero. Anche... Ma io non so a questo punto neanche se Sony c'ha una strategia oltre i 6 mesi per Move, perché... la loro strategia, diciamo, dichiarata è che vogliono arrivare gradualmente alla tua nonna, alla tua Filippina, eccetera. Cioè, non è una cattiva idea, nel senso che magari man mano che la PlayStation 3 cala di prezzo. Esatto, insomma. Cioè loro cominciano a fare i giochi hardcore gamer che supportano il Move, i giochi che possono più o meno interessare a entrambi i pubblici, e poi piano piano arrivano anche a fare brain training e via dicendo, invece di, tra virgolette, saltare la parte di mezzo e partire subito con 8 giochi pensati per... sto divagando. No, vabbè, ripeto. No, però sono d'accordo, nel senso... Ma, per esempio, difatti a me, io ho il Move, ma non ho ancora Kinect, perché per adesso non c'è neanche... Cioè, tutto sommato, Move, anche quell'orribile prova che erano fatto con i V-Rain, comunque tutto sommato, c'avevo già i V-Rain, ho scaricato la patch, l'ho provata, mi ha fatto letteralmente cagare, però tutto sommato... Hai provato? Se ora... Little Big Planet, così no. Prehistoric Move. No. E sai che è molto molto carino, c'ha il problema che devi è per 2 giocatori offline, quindi non, se non c'hai un essere umano che insomma ti segue non... Io ci ho giocato con la mia ragazza e ci siamo divertiti un mondo, ormai non scopiamo più, facciamo queste cose. Ci siamo divertiti tantissimo. Che bello. Lei manovrava il Move, il controllo delle nascite di Sony, vedi che ci riescono. Il miglior anticoncezionale di... No, quella migliore anticoncezionale è sempre la chitarrina di Guitar Hero, quello vorrei ricordarlo, che vince su tutto. No, però è diverso, nel senso che Ferruccio parla di una roba con cui gioca con la sua ragazza e non trombano più. Guitar Hero, la ragazza ti lascia. Sei tu che non trombi più, lei continua. Esatto, perché io gioco anche a Guitar Hero con la mia ragazza. Ah, sì, infatti. Scusatemi, che scusalo. Ma infatti, secondo me è una minchiata quella di Guitar Hero, cioè per carità ci saranno sicuramente donne che vedono che hai la chitarrina di plastica e ti considerano un coglione, però Guitar Hero Rock Band sono fra i più classici esempi di giochi che piacciono anche a gente che i videogiochi non li vuole toccare manco con i guanti. Ma la mia ragazza suona il basso, io la batteria. E non fate la battuta, lui la trova. La mia ragazza mi guarda come se fossi un mentecatto quando giochi te, io però si è guardata tutto God of War 2 mentre lo finivo. Beh, quindi... ma tanto la tua ha qualche problema. Ma lei comunque ti considera un mentecatto a prescindere, quindi... Questo è ovvio. Infatti un po' preoccupata che parte dei miei geni sia nel pupo, comunque vabbè. Quindi riassumendo, la musica no, la violenza orribile sì. Esattamente, sì. Ma che è anche più educativa, insomma. Però grottesca, e comunque c'è sempre quello spruzzo di mitologia greca che fa cultura. Esatto. Poi c'è anche questa sessualità un po' squallida in God of War che ti prepara alla vita in Italia. Premi X? Funziona così in Italia? Più o meno ormai. Sì. Dipende da chi sei. Dipende anche un po' da chi sei, esatto. Però. Comunque, giusto per chiudere quello che diciamo, sì, quello che stanno dicendo, c'è anche a dire una cosa, che Sony la butta sul è stata una nostra scelta consapevole, noi vogliamo abbracciare tutti i mercati, ma c'è anche da dire che sarà pur vero, ma è anche vero che con Move è un po' più facile fare il gioco tradizionale che con Kinect. Cioè, voglio dire, tutti gli spara tutto, può implementarlo bene o meno bene, però sostanzialmente lo usi come sistema di puntamento. Kinect è un po' più difficile infilarlo in Call of Duty. Sicuramente, sicuramente. Anche tra l'altro come impiego di risorse, perché Move ne impiega, ma a quanto pare, poi io non sono un insider, ma molte meno rispetto a quante ne impieghi Kinect, quindi insomma. Sì. Chiudiamo il discorso, scusate, prendo le redini della trasmissione, vai. Cazzo mi frega. Con Gatsu non posso mai farlo. Prendi ciò che vuoi qua. Guarda come ti chiudo l'argomento portatili. Dicevo, non sarà che i ragazzotti americani che stanno lì a giocare sempre a Call of Duty online con NGP troveranno la loro console preferita, perché è stato annunciato per un Call of Duty per NGP e sarà praticamente come un FPS per console normale. E negli Stati Uniti ti regalo un M16 vero quando tu compri Call of Duty la Texas, sì. E tra l'altro ho visto l'intervista a Kazirai mentre commentava questo fatto che hanno Call of Duty sulla nuova, sì, PSP, e aveva proprio un'erezione colossale mentre lo diceva. Vabbè, giapponese, quello colossale no. Vabbè, però. Colossale per i suoi standard, insomma. Che razzismo orribile. Vabbè, oh, è così, non è che... Però, beh, è comprensibile comunque, sì, che, sì, insomma... poi divaghiamo, le giapponesi piacciono gli occidentali. Secondo me è il contrario, comunque. No, insomma, vabbè, comunque. Però mi sembra un bel modo di chiudere questo argomento, sì, per poi andare subito a quello dopo. Ho preso spunto per l'argomento dal fatto che ho comprato Dead Space per iPhone e dicendo, ah, sarà una cazzata, figurati se mi spavento, mi sono cagato sotto perché l'ho giocato con le cuffie, quelle grosse grosse che coprono tutte le orecchie, e non solo... graficamente molto molto bello, ma Dead Space per iPhone ha un impianto sonoro che è pari a, praticamente pari alla versione per home console. Quindi era pazzesco, cioè, nei limiti tecnici, però avevano fatto un lavoro pazzesco anche in extraction su Wii, usando tantissimo anche lo speaker del Wiimote, che sembra una minchiata, ma ci facevano delle cose carinissime. Era tutto in MIDI. Sì, c'erano i mostri 8-bit music. No, però quanto è importante l'impianto sonoro di un gioco anche su piattaforme dove non diresti mai che ti può dare quella sensazione particolare. Dead Space, secondo me, è un brand che poggia tantissimo sul sonoro, perché sì, la grafica è spaventosa, fighissima, un sacco di effetti di luce, ma insomma non è il top che c'è oggigiorno nei videogiochi, e invece secondo me è il top per quanto riguarda l'impianto sonoro. Secondo voi quanto potrebbe migliorare l'esperienza di molti giochi con un impianto sonoro decente? Adesso qua questo è particolarmente mirato, però si potrebbe migliorare o chi se ne frega, tanto poi uno non ci fa caso? No, per niente, io Dead Space lo gioco mentre ascolto il telegiornale, quindi... Allora ti spaventi veramente. L'orrore. Sì, no, non lo so, rispondo io. Vai, di qualcosa di intelligente. Questo è un po' difficile, però in genere a me rompo un po' le palle quando ci sono nei giochi portatili, nelle console, comunque insomma piattaforme portatili, ci sono i giochi in cui l'audio è importante, perché quando io gioco con una console portatile di solito voglio giocare senza audio, quindi capite il fatto che mi piaccia così tanto Patapon, mi contraddico subito. Però a parte quello, no, l'audio secondo me può migliorare tantissimo, ed è una cosa ancora, sembra strano, insomma sono 20 anni che tutti ne parlano insomma a periodi, è ancora una cosa poco sfruttata. Io per esempio per ora sto giocando Red Dead Redemption, proprio alla buona ora, lo so, sono arrivato un po' tardi, però... Io ho finito Mass Effect 2 l'altro ieri, mi puoi immaginare. Io devo ancora giocare entrambi. Perfetto. Che podcast di vecchi, però. non c'ho il tempo, mio figlio piange. Sti giochi lunghi, esatto. I miei tempi duravano 2 ore. Ecco, cut the rope. E quindi, mamma mia, tristezza. E quel gioco lì, c'ha, secondo me, cioè, se togliete l'audio a Red Dead Redemption, secondo me gli togliete una gran parte del suo motivo di esistere, tutta l'atmosfera che c'è, poi magari, credo che sia anche il caso di Dead Space, è un po' difficile dire dove finisce l'atmosfera e dove comincia la giocabilità, cioè, questi giochi, ci sono molti giochi che hanno senso perché c'è una certa, perché ti fanno sentire in un certo modo. E io penso ad esempio che a certi momenti in Red Dead Redemption, quando sei, non so, a cavalcare di notte e parte la musica quando qualcuno ti sta sparando, è un po' ti cacchi sotto, insomma, non lo so, ci sono un sacco di diverse emozioni che vengono sviluppate tramite l'audio. E nel caso poi di Red Dead Redemption c'è questa cosa bellissima che colonna sonora ed effetti sonori sono... non so se l'avete notato, sono praticamente mischiati. Io ci ho giocato pochissimo, proprio un paio d'ore. Quindi. Cioè, per esempio, quando comincia la sparatoria, senti anche, cioè, i suoni sono mixati in un modo per cui senti anche degli effetti sonori, tipo, non lo so, i grilli, se è di giorno, sono mixati in un certo modo assieme alla musica, cioè, perché non c'è molta musica, sono di solito pochi accordi. Non so, c'è un mixaggio, c'è qualcosa che hanno fatto con l'editing che non so descrivere esattamente, però è bellissimo, mi sembra una cosa anche abbastanza nuova, poi magari qualcuno può spiegarci tecnicamente cosa hanno fatto, perché non, non saprei, però sì, sicuramente può migliorare l'audio, può migliorare molto. Ma, oltretutto, secondo me, per esempio in Dead Space, secondo me Dead Space, il secondo non l'ho ancora iniziato, il primo, non dico che sia un gioco banalotto, però tutto sommato è un survival horror, dove peraltro ti dicono, ehi, Isaac, scusa, dovresti, mentre uccidi 3000 necromorfi, dovresti andare lì e riparare quella cosa, poi 5 minuti dopo, ah, mi sono dimenticato che nel livello prima ho lasciato una chiave inglese, vai di là, cioè, Ho lasciato il gas aperto. Cioè, tutto sommato, ha una trama proprio di una banalità ridicola, però secondo me proprio Dead Space guadagna tantissimo dal sonoro. Faccio un esempio su tutti: quando tu sei in mezzo ai rumori dell'Ishimura, una cacofonia, apri uno dei portelloni e ti ritrovi nel vuoto, al silenzio più totale, solo con lui che respira. E vedi i necromorfi che ti arrivano nel silenzio ed è spaventoso. Cioè, riescono veramente a spaventarti semplicemente. Perché se tu lo giochi col mute, quel gioco non ti dice nulla. Nulla. Sì, quattro mostri ben fatti, però. Ma neanche tanto ben fatti. Cioè, nel senso, proprio banale. Accendi il sonoro ed è tutta un'altra vita. Secondo me, in molti giochi dovrebbero migliorare questa parte qua che, come dicevi tu, Ferruccio, è un po' sottovalutata. Io... Sì, poi perché... No, vabbè, avanti. No, di. Dico solo che mi sembra che non stiano... Molti sviluppatori non usino l'audio in una maniera che abbia senso. Cioè, magari tecnicamente è pure ben fatto, non lo so, la musica è carina, i effetti sonori sono buoni, però non c'è quel salto di qualità, non c'è quell'uso... Ma anche i fini del gameplay, cioè, insomma... pensa per esempio a come alla raffinatezza dei giochi Platinum, che usano tutti quei suoni per dirti che il nemico sta attaccando. Cioè, quello pure secondo me è un uso molto creativo. Secondo me comunque ha un costo in tempi di sia economici, ma ha un costo proprio in tempi di sviluppo, una cosa del genere. Cioè, molti non lo fanno, secondo me, perché magari puntano di più sulla grafica e ben saprebbero che il mio gioco sarebbe molto migliore con una cura maggiore, però secondo me è veramente faticoso a livello di sviluppo un creare un impianto sonoro simile, per quanto poi sia come dire, cioè il gioco ne guadagna un sacco, però secondo me alla fine della fiera lasciano quello come ultima cosa, perché forse ritengono che all'utente medio fotta poco o giochi con l'audio spento, ecco. Dicevi, Andrea? No, non lo so, nel senso, secondo me, adesso mi fa venire in mente che forse sottovaluti un po' l'attenzione che viene data a queste cose. Io penso che in realtà molti ci ragionino sull'audio e su come utilizzarlo, poi non sempre ti può venire bene, puoi avere l'idea giusta per farlo funzionare. Comunque, al di là di questo, io volevo solo dichiararmi assolutamente d'accordo sull'importanza dell'audio, facendo anche esempi meno evocativi, nel senso che molto banalmente, anche, che ne so, in un gioco di guida, la canzone o la musica giusta in sottofondo ti detta il ritmo e ti dà la tensione della competizione in maniera incredibile. Cazzata, ma che per un appassionato del genere è fantastica, faccio partire un gioco di sport americano e mi sento la sigletta di ESPN, che è una puttanata, però è quella a cui sono abituato quando guardo lo sport in TV e mi cambia completamente l'atmosfera. Cioè, è anche una questione di suoni o musiche che ti fanno scattare l'immedesimazione, perché ti ricordano, cioè è ovvio che può cambiare completamente tutto. Questa è anche una bella cosa per i nostalgici dei bei vecchi giochi di una volta. Noi ora ce lo dimentichiamo, però c'è stato in un passato non troppo remoto. Io mi ricordo, insomma, la cosa è la musichetta di 30 secondi in loop, che insomma era una cosa che si sentiva anche ai tempi della PS1. Sì, ma io grazie a Dio, insomma, questa piaga è passata. Beh, una delle musichette in loop che mi ricordo di più era quella di Exciting Soccer. E durava tutte le partite, per tutta la partita. E anche una musica originale, c'era il mambo. Sì, era bellissimo. Un gioco di calcio su uno schermo solo, fantastico. Peccato, passati talmente tanti anni che non so neanche quanto tempo fa era. Forse era l'83, 85. Ecco appunto, un podcast di anziani. Sì, ma io... Sì, me lo è sempre stato. Poi da quando abbiamo eliminato... L'unico giovane. Scusa, ma tu com'è che nell'85 eri cosciente? Quanti anni c'hai? Io sono del 73. Cazzo, ok. Cioè, io ho giocato a Pac-Man quando è arrivato in Italia al cabinato, cari fanciulli. Oh. Okay. Beh, nell'80. Beh, nell'85 mi sa che ero purtroppo cosciente anch'io, ormai. Adesso non io mi ricordo se... quasi mi cacavo addosso. Vabbè, ma magari anch'io, pur essendo cosciente. Avevo 16 anni. No, vabbè, avevo 8 anni, io nell'85. Vabbè, sì, però diciamo che l'ho vissuta tutta l'epopea videoludica sin dall'inizio con estrema gioia dei miei genitori che mi staccavano cavi ovunque per quando tornavo a casa da scuola per evitare che giocassi. Però va bene. Si è visto che il risultato. Sì, veramente. Va bene, io direi di proseguire con degli argomenti assolutamente inutili, come direbbe il presentatore di Top Gear. L'altro giorno mi sono scaricato Kongregate, non so se avete presente cos'è, ma penso di sì, il portale di giochini in flash. Tutta là, c'è anche l'applicazione per Android, adesso hanno fatto, dove si può giocare un notevole numero di giochini flash direttamente da Android anche senza usare il browser, c'è proprio l'applicazione C. Ed è molto carino. La prima cosa che però che mi ha sconvolto e che non avevo mai notato è che Kongregate è di GameStop. Che questa cosa effettivamente... Maledetto. Cioè, sì, non da tantissimo comunque. No, difatti io non l'avevo mai notato, l'altro giorno apro il sito, vedo GameStop, vabbè, quello che è. Comunque è di GameStop. E gran paracuri. Sì, beh, d'altronde loro mica sono una onlus, cioè. No, cioè nel senso è intelligente come cosa, loro sono molto legati al, insomma, beni fisici, insomma, si allargano, pensano anche ad altre cose. Sì, peraltro il sito più che si basa più sull'online che c'è, perché insomma è veramente una sorta di Xbox Live solo su giochini flash. E secondo voi... Ti interrompo, volevo dare due informazioni. Ho aperto al volo la pagina su Wikipedia. Sì. GameStop li ha comprati nel luglio 2010, però sto leggendo qua, il 18 gennaio 2011 Google ha rimosso Kongregate Arcade dall'Android Market perché violava gli accordi di distribuzione che proibiscono alle applicazioni di permettere il download di altri software. Io ce l'ho sul telefono, il 18 gennaio, e la disputa pare sia collegata al modo in cui Kongregate Arcade scarica giochi in flash aggiuntivi, cioè che scarica altra roba rispetto a quelli. Che noia questi qua di Google, mamma mia. No, vabbè, però dai, queste cose le fanno per evitare che ci siano le applicazioni che poi... Ma sull'Android Market c'è la totale anarchia e rompono il cazzo per sta roba. Peraltro per una cosa fatta da non dai primi minchioni, quindi credo che un minimo di controllo di qualità possa esserci. Ma a parte il fatto che l'hanno tolto dall'Android Market, che quindi non lo potete provare. Esattamente, io ce l'ho. Ma secondo voi l'avere i giochini in flash sul cellulare gratis, cioè, ha un senso o è solo un secondo Google no. Secondo Google è ovvio che loro avranno anche pensato al fatto che Kongregate adesso non è sicuramente una potenza economica, però comunque tu hai la possibilità di giocare gratis rispetto a acquistare anche solo l'applicazioncina da 79 centesimi. Boh, secondo me, a parte il lato tecnico che poi... Vabbè, ma credo che sia un tecnicismo più che altro, perché voglio dire, su Android, come su iPhone, penso ci siano anche giochi che si scaricano gratis, no? Sì, ma li scarichi sempre dal loro... loro hanno la tracciabilità. No, certo, però all'interno di questa applicazione tu puoi giocare più giochi gratis, come se quando scarichi... potenzialmente infiniti. No, certo, sì, ma infatti ma mi sembra più una questione tecnica di dovrebbero essere già nell'applicazione, non li puoi scaricare in più senza pagare. Però è tanto diverso dall'emulatore di Commodore 64 su iPhone, che lo scarichi, c'ha già dentro un tot di giochi gratis e poi vabbè, gli altri li devi comprare, cioè solo il fatto che sono gratis invece di comprare. Vabbè, ma loro non hanno nessun controllo. Se cominciano, ti danno un po', è un po' esatto, come se dessero una porta per mettiamo che domani Kongregate vuole fare pagare i giochi tramite l'applicazione stessa, quindi bypassando. Beh, ma non è quello che succede sull'emulatore di Commodore 64 per iPhone. Tu i giochi li compri dentro l'emulatore lì, eh. Davvero? Sì, c'è l'in-app purchase, quella simpatica cosa. Sì, quindi il problema è che dall'interno dell'applicazione puoi scaricare delle, tra virgolette, sottoapplicazioni, ma solo se le paghi. Boh, mi sembra una regola un po'... No, evidentemente è proprio un tecnicismo per evitare che entri merda sul cellulare, evidentemente. Sì, probabilmente quello. Per inciso, Kongregate sul loro sito sostengono ancora che c'è l'applicazione su Android, ma quindi sta creando un mistero qui. Io l'ho scaricato dopo. C'ho il cellulare davanti, potrei anche controllare. Io no. Secondo voi, Kongregate, io per esempio ci gioco ogni tanto, è una realtà che può veramente fare il botto o no? O è una cosetta così per fare il passatempo? Quello che mi chiedo sempre, io quando mi metto a giocare con Kongregate perdo un sacco di tempo effettivamente, sì. Ma può diventare veramente un'alternativa vera al videogioco, quello normale, o rimarrà sempre comunque una cagatina? Allora, l'applicazione c'è ancora. Ah, vabbè, allora sono stupidi quelli che hanno fatto la voce su Wikipedia, va bene. Scaricata. O magari non l'hanno aggiornata, magari poi si sono messi d'accordo, non ne ho idea. In realtà, secondo me, anche se noi non lo sappiamo, queste cose sono già realtà. Cioè, sì. Noi, per noi, queste robe, cioè, Bejeweled, per esempio, quanti milioni di miliardi ha fatto prima che ci accorgessimo che esisteva? Sì, questa è la stessa cosa a Farmville. Fra l'altro, scusate, parentesi, secondo me abbastanza significativa, alla GDC di quest'anno, siccome è il 25esimo anniversario, bla bla bla, fanno una serie di post-mortem vintage, cioè il tizio che ha fatto il gioco ne viene a parlare, ma su giochi storici vecchi. E allora c'è, non lo so, Maniac Mansion, piuttosto che Doom, eccetera, e c'è Bejeweled. Cioè Bejeweled è considerato un gioco talmente importante che alla GDC, al fianco di Maniac Mansion, Elite, Sarà Madonna, c'è il post-mortem su, oh che figata che fu all'epoca fare Bejeweled. Ma io posso anche darvi, ci ho pensato proprio adesso, posso anche darvi una informazione proprio da che coinvolge il mio lavoro in campo SEO, quindi ottimizzazione per i motori di ricerca. Tutti i siti che hanno a che fare con giochi online, che raccolgono giochi in flash, cioè la competizione è terribile in quel campo lì, quindi se c'è questa competizione vuol dire che fanno soldi, e fanno soldi con le visite, non con complessi modelli economici, cioè puntano sui grandi numeri, cioè, riempiono le pagine di pubblicità e la gente va lì a giocare con sti giochini in flash, i numeri sono così tanti, cioè, si parla, anzi scusate, mentre voi parlate, se volete vi posso dire anche ogni mese in Italia quante persone cercano le su tette. Google, no, quello guarda, quante persone cercano giochi online, giochi gratis online. Intanto che tu cerchi informazioni, dico una cosa, visto che hai chiesto di Kongregate. A me Kongregate piace un sacco per un motivo, che molto più rispetto all'App Store, per dire, c'è veramente tutto il contrario di tutto, nel senso che c'è dal giochino del cazzo che fa sembrare Bejeweled la più grande creazione della storia del videogame, a tutte le piccole produzioni indie che se la tirano da gioco artistico, eccetera. Per cui è bello anche per questo, è un contenitore straglobale, tutto centralizzato, gratuito, con gli achievement, la lista amici, cioè è un bel sistemino. Difatti, secondo me, il punto focale di Kongregate è proprio quello, l'aver replicato in maniera ottima, peraltro, il concetto di Xbox Live, cioè avere gli achievement, la lista amici, e si crea una community, e per quello che dico, che credo che una realtà del genere possa alla fine diventare un serio antagonista al gioco normale, perché comunque ti dà parte delle cose che creano dipendenza, come gli obiettivi, quelle cose lì, è più una scelta devastante, cioè, quindi secondo me alla fine può darsi che GameStop abbia fatto la scelta giusta, visto l'aria che tira sui negozi fisici. Sì. Fra l'altro sugli achievement, per chi non li avesse mai visti, consiglio due giochi su Kongregate, Achievement Unlocked e Achievement Unlocked 2, che prendono per il culo la roba degli achievement. Ci sono tipo 50.000 achievement che sblocchi, non so, fai un passo, salta sbattendo la testa. Tocca non so quella se piattaforma. Prendono per il culo, guarda, può essere che ci sia gente che ci fa davvero caso. No, sicuramente, vabbè, è ovvio. È anche una parodia, comunque te la assicuro, fa veramente ammazzare da ridere alcuni achievement che ci sono dentro. Poi in Kongregate c'è anche Don't Shit Your Pants, che è uno dei giochi più belli che abbiano mai fatto, una mini avventura grafica in cui devi riuscire a non cacarti addosso. No, vabbè, però a parte questo, vi do questa informazione. Guarda, le variazioni di delle keyword che riguardano, insomma, gioco gratuito, gioco gratis e cose così, quindi tutte le variazioni ammontano a circa 7,5 milioni di ricerche mensili. Se considerate che il primo risultato su Google di solito attira un 40% dei click, si parla di siti che hanno, tipo, che so, soltanto da motori di ricerca, hanno tipo 3 milioni di accessi, quelli che stanno al primo posto per la maggior parte di queste parole, e con quel tipo di traffico lì ci fa un sacco di soldi. Mamma mia, che roba. Quindi c'è gente che ci fa i soldi. Beh, no, ne immagino, perché sennò non ci sarebbe tutto questo sviluppo. Insomma, lì ci sono migliaia di giochi, cioè se qualcuno non ci mangiasse sarebbe anche stupido farli a un certo punto. Va bene, sì, farsi le ossa, farsi notare, eccetera eccetera, però comunque. E però devo ringraziare Andrea e Outcast che mi hanno fatto scoprire One Chance. Che il mio omino è ancora morto lì. Io l'ho finito nella migliore maniera possibile, quindi alla fine ho detto: vabbè, figo. Solo io sono morto, che palle. Perché poi la miglior maniera possibile, cioè ti salvi te e basta, sì, praticamente. Sì, effettivamente. Ho visto il video su YouTube e mi sono quasi messo a piangere. E sempre rimanendo in ottica Google, in realtà questo l'ho tirata fuori da un tuo post su Facebook, caro Ferruccio. Okay. Perché ce l'avevi con quelli che si lamentavano che, ah, questa notizia che Google censura le ricerche è una tragedia terrificante, sì, eccetera eccetera. Spieghiamola, insomma. Allora, sì, è uscito questo post su Boing Boing, che di solito è un gran bel blog. Comunque era il post tipo: Google censura BitTorrent nella instant search, ma non censura come rapire un bambino. Detto così, la gente dice: oh mio Dio! In realtà qual è il fatto? Che la ricerca istantanea di Google c'ha un filtro per cui, se cominci a scrivere qualcosa che potenzialmente potrebbe essere zozzo, non ti fa vedere i risultati istantaneamente. E la stessa cosa è per i suggerimenti, perché tu, se vuoi scrivere fammi pensare un attimo, che so, penalizzazioni, e cominci a scrivere pene, e poi ci sono pene grosso, come allungare il pene, cose, sto dicendo accorciare il pene, non credo che ci sia una persona che cerca magari su Google. Siccome i suggerimenti di ricerca sono basati sui volumi di ricerca, capite bene che se tu stai cercando, cioè, è probabile, se cominci a scrivere pen, sì, visti i motori, visti, insomma, visto cosa cerca la gente, è probabile il primo suggerimento sarebbe pene grosso, qualcosa così. Quindi si tratta semplicemente di un filtro che naturalmente applicano alle cose che sono potenzialmente illegali, come BitTorrent o non lo so, queste, sì, cose, sì, qua. Sì. Quando poi vai a robe come rapire un bambino, è logico che non è che a Google, nella loro lista di parole proibite, c'hanno no, c'hanno tipo, che so, come usare l'ammoniaca per far esplodere le cose, che ne so, cioè, per far esplodere un bambino, esatto, rapito. C'hanno le cose semplici. E la cosa bellissima erano i commenti a questo post di gente che diceva: oh mio Dio, questa è la prova che il governo controlla Google, le cospirazioni, le scie chimiche, insomma, cioè. Poi, fra l'altro, come si risolve la cosa? Premi enter, sì, cioè, si fa la ricerca enter, vera. Non è, sì, non è che ti censurano la ricerca, non si vedono i suggerimenti. E questo, secondo me, è abbastanza emblematico di come ragiona la gente online. Sono, sì, tutti, sì, là, oh mio Dio, tutti che si lasciano. Peraltro, la instant search di Google è una delle cose più fastidiose che a me mai capita, perché vedere sta pagina che cambia ogni 5 nanosecondi, appena digito una lettera mi fa diventare. Sì, ma sai che lo fa tutte le volte che io penso, adesso mi farebbe comodo se farei, non lo fa. È vero. A me piace, però a quanto pare non sta avendo praticamente nessun impatto sulla ricerca in sé, perché c'è tipo il 95% degli utenti guarda la tastiera mentre scrive, quindi non se ne accorge neanche. No, io guardo lo schermo, però mi dà fastidio. Noi siamo pro, ma la gente di solito sta lì col ditino, clac! Io guardo fuori dalla finestra, quindi non vedo neanche sullo schermo. Comunque vorrei testimoniare che invece i torrent appaiono. Perché io scarico pochissimi, cioè, ho comprato Triangle, quindi voglio dire, ma ogni tanto magari il film che non mi danno al cinema in lingua originale, allora mi gira il cazzo, lo scarico. Ma non ti giustificare, è solo il fatto è solo per dirlo. E No, ma è solo per dire, io non ho la minima idea di come funzionino torrent, di quali siano i motori di ricerca giusti. Io quando devo scaricare un film scrivo torrent, titolo del film, HD e lo trovo. Ma sì, la cosa allucinante è che Google non ti censura neanche se tu cerchi come fare una bomba in casa. Cioè poi magari gli passa il tuo IP alla CIA, però... Sì. Se cerchi torrent HD come fare una bomba in casa... È un documentario a 1080p. Ma su YouTube si trova di tutto, secondo me non... Sì, peraltro YouTube è la massima violenza al copyright della storia dell'uomo, quindi insomma... Ed è di proprietà di Google. Ah, mi fate venire in mente, ho visto di recente il film The Next Three Days, che esce a marzo, credo, in Italia, che è quello con Russell Crowe, è il regista di Crash, che tipo sua moglie viene accusata di omicidio, finisce in prigione, non riescono a scagionarla, lui dice vaffanculo, la voglio fare evadere, però lui è un coglione, non ha la minima idea di come fare, e tipo per aprire un furgone per entrare e sostituire dei documenti, sa? Diciamo il finale, cioè no, questo è molto prima del fine, cioè questa roba che si vede nel trailer. Ok, perfetto. Per capire come fare fa la ricerca su Google e trova il filmato di quello che con una roba a pressione apre la portiera della macchina. Ottimo. È bello che sì, no, il primo tentativo fallisce, poi fa un'altra ricerca, no, ok, questa funziona. Era sponsorized by Google. Presumo di sì. Sì, beh, ormai invece di inventarsi motori di ricerca farlocchi nei film hanno sempre Google veramente adesso, invece di avere internet. Aspetta, search. No, in questo film c'è la regola principale dell'uso dei computer nei film, cioè il protagonista ha un Mac sulla tastiera, no, solo scrive sulla tastiera facendo tipo così. Senza toccare mai il mouse. Non mi pare, ammetto di non ricordarlo, ma solitamente ci faccio caso e non mi ricordo questa cosa, per cui dovrebbe essere abbastanza, in mezzo a mille altre cose poco credibili, questa cosa mi sembra sia abbastanza realistica. Beh, ma questo capita in tutti i film, che non toccano mai il mouse. Il mouse è un oggetto inutile. Ma perché fa più scena sentire il rumore dei tasti. Sì, è vero. E voi lo sapevate che c'è, nei film quelli ad alto budget, c'è la figura, ovviamente i film tecnologici, c'è la figura di quello che crea i sistemi operativi farlocchi per le schermate, cioè è proprio un lavoro apposta creare la, come dire, una parvenza di realtà in quei sistemi, cioè voi immaginate qualsiasi puntata di CSI che hanno delle schermate senza senso, nel buio pesto, come cazzo fanno a vedere qualcosa, e hanno queste schermate che ogni volta che cliccano c'è un beep. Sì, sempre. Sì. Io lavorassi così, dopo 5 minuti ho sparato quello di fianco. 2001 che sia nello spazio, no? I computer sono ancora visti in queste cose come qualcosa che fa quei suoni strani. Sì, esatto. Però sta cosa è affascinante perché ad esempio anche in The Wrestler il giochino per NES che giocano l'hanno veramente fatto, era una roba funzionante. Certo, erano solo quei due lottatori su quel ring, però era una roba a cui giocavano sul set. Sì, sì, sì, sì, ma lo fanno apposta. Sì, ma Hollywood fa... Se no andiamo direttamente ai giochi giocati. Quanta milioni di dollari, in qualche maniera sti soldi li devono buttare, no? Bene, bene, io direi di chiudere qua la parte delle notizie. Giochi giocati. Questo mese ho finalmente giocato e finito Mass Effect 2, che ce l'avevo lì sul groppone, visto che ha vinto qualsiasi premio di qualsiasi concorso mediale, e effettivamente devo dire che se l'avessi giocato l'anno scorso sarebbe finito in testa la mia top 3 di giochi del 2010. Sì, sì. È un insieme, gioco... insieme a, scusa? No, da solo. No, senso... sì, no, ok, ma gli altri due? No, allora, voglio sapere chi è che perde il primo posto. Alan Wake. Ah, ok. In ordine erano Alan Wake, Heavy Rain, e il terzo non me lo ricordo più, forse... Jason! Minchia, che ansia! e al terzo ho messo Call of Duty, mi pare, Black Ops. Invece... arriva Mass Effect 2, quindi Call of Duty esce dalla mia top 3, e quindi abbiamo Mass Effect 2, Alan Wake e Heavy Rain. Beh dai, puoi fare finta di averlo giocato su PS3 e lo metti nella tua top 3 di quest'anno. Quasi quasi. In realtà l'ho giocato su 360 senza aver avevo giocato il primo per ben 2 ore, poi mi ero rotto le palle, devo essere sincero. Di Mass Effect 2 ho apprezzato tantissimo il fatto che sia praticamente un Gears of War un po' sfigato dal punto di vista action, però insomma è uno sparatutto alla fine della fiera. Di gioco di ruolo c'è proprio poco. In realtà la cosa bellissima è una storia veramente raccontata in maniera eccezionale nelle varie scene di intermezzo, nelle scelte che puoi fare, e il fatto comunque che il gioco ti racconti tutto tramite una grafica, a parte ottima, però con grafica in tempo reale anche nelle sequenze, ti permette di avere, che ne so, tu vai a fare la missione con due della tua squadra, ovviamente in tutte le sequenze di intermezzo ci saranno quei due vestiti come hai deciso tu, con le armi che hai deciso tu, eccetera eccetera, quindi anche quando capitano cose brutte ai tuoi compagni, a seconda delle scelte che hai fatto capiterà a gente sempre diversa, non c'è una predeterminazione come per esempio in titolo Square, dove puoi fare il cazzo che vuoi, ma tanto alla fine c'è il full motion con tutti i personaggi che devono essere in quel punto, in quel momento, e insomma si perde un po' l'illusione della libertà. Qua invece c'è una libertà abbastanza alta. Poi fra l'altro credo che per ogni missione ci siano dei personaggi che se te li porti sbloccano dei dialoghi particolari. Sbloccano dei dialoghi, sbloccano anche altre parti di sottomissioni e sbloccano anche cose future che capiteranno o a loro o a te stesso. Vabbè Davide, ti adesso bellissimo, però adesso non vorrei darti una deuda. È un GDR, cioè, sono queste cose che succedono nei GDR da tanti anni. Sì, però io allora io avevo giocato anche avevo giocato anche di BioWare, era Knights of the Old Republic, no? E però il fatto che non mi sono mai appassionato troppo, perché appunto c'era troppo parte di GDR e troppo poco parte di epicazione. Qua, dato che hanno messo molta epicazione e molto poco GDR, mi sono trovato in un gioco che mi ha proprio emozionato. Poi alla fine è spettacolare. Addirittura, sì, addirittura. Sì. Io ho provato, ci ho rigiocato un po', ce l'ho su PC, siccome ho comprato la Uber scheda grafica di recente. Di nuovo. Ho detto vabbè, dai, diamo una possibilità a questo gioco che avevo iniziato e che avevo abbandonato un po'. Così, quindi insomma ho provato un po' a continuarlo e non c'è nulla da fare, secondo me è proprio un gioco bellissimo che mi annoia a morte. Beh, io non ho giocato ancora il 2, posso dire dell'1 che avevo, secondo me il primo episodio ha un inizio che è una rottura di coglioni che non finisce mai, poi quando prendi l'astronave c'è il momento, wow, sto gioco è una figata, dopodiché è un continuo, roba inutile che ti fa perdere tempo fra un pezzo bellissimo e l'altro. Però i pezzi bellissimi sono effettivamente molto belli ed evocativi, quindi mi sembra credibile che nel seguito ne abbiano messi di più di pezzi belli. No, ma qui guarda, il problema principale per me di quel gioco è che intanto vabbè, la parte action secondo me è veramente orrenda, però. Beh sì, non è. Pensa che non nel primo era peggio. Che culo. ma a parte questo è che tutto c'ha un senso, non lo so, c'ho questa impressione di andare da una stanzetta all'altra. Ma se non ha un respiro epico, per me è un po' spezzettato, non lo so. Non... Sì, è vero. Ma vedi, questo è il problema, secondo me, dell'epoca attuale dei GDR. Quella. Perché stanno cercando di arrivare a livello di profondità, ricchezza, coesione del mondo di gioco, eccetera, che avevano i GDR di una volta, solo che i GDR di una volta se lo potevano permettere perché la grafica, l'audio, li facevi con due soldi in opera, insomma, richiedevano investimenti molto minori rispetto alla grafica della Madonna e tutto doppiato, e quindi ovviamente adesso sei più limitato in queste cose. Non siamo ancora a quel livello lì, però Fallout. Lo so, però non, Fallout 3 non è come i due precedenti Fallout sotto questo punto di vista, secondo me. No, lo so. Però ci si sta arrivando, solo che ovviamente, poi soprattutto più ti ci avvicini, e magari diventa fattibile a livello hardware, tecnico e tutto, però ti costa sempre più soldi farlo. Però sai, è un po' un rompimento di coglioni questa cosa, perché tutti i giochi stanno diventando ora degli action in terza persona con elementi sparatutto. E tra l'altro questo secondo me limita molto l'elemento GDR del gioco, perché a prescindere dalla statistica, cioè dal motore, diciamo, da come lo fai il GDR, il punto del GDR, almeno per come la vedo io, è il fatto di poterlo giocare come cazzo ti pare, interpreti il ruolo, eccetera. Questo nella maggior parte, se non in tutti i GDR attuali, è vero fino a un certo punto, perché comunque sono tutti giochi in cui se li vuoi finire devi combattere come uno stronzo tutto il tempo, mentre i GDR di una volta ti permettevano anche di non farlo. Però è una cosa che coinvolge un po' tutti i giochi, cioè anche gli ultimi, non so, anche Red Dead Redemption, anche GTA 4, rispetto ai precedenti giochi Rockstar, insomma, Sandbox, sono più action. sì, più action e anche più lineari, cioè non puoi, non puoi, ci sono delle istanze e non puoi sai, lì è un il discorso dell'action è la convinzione che se non ci metti le pistole e le sparatorie vendi molto di meno, convinzione probabilmente anche vera, perché per quanto Heavy Rain abbia venduto quasi 2 milioni di copie, Call of Duty ne vende 20. Ma anche nei giochi in cui ci sono le pistole. Sì, sì, no, sicuramente, ma poi il discorso della linearità penso che sia in parte comunque figlio di quello che dicevo prima, cioè aumentare le possibilità, chiede soldi, e poi comunque se lo fai più lineare lo fai più accessibile, che è una cosa a cui tengono abbastanza. Sì. Ma difatti a me penso che uno dei motivi per cui mi è piaciuto Mass Effect 2 è che non dovevo impazzire nel mille inventari, cose del genere, insomma è molto semplificato. Ma non è solo una questione di inventario la non linearità, perché tu puoi fare, ipoteticamente, se hai mezzi economici e tempo infinito, un gioco che funziona come Mass Effect, nel senso di sistema di controllo, di azione, ma molto più libero come scelte, come vado dove cacchio voglio, eccetera. Ma si ricade sempre in quello che dicevi prima, perché alla fine tu, se vuoi fare un impianto grafico tecnico da film, perché questo è un colossal, cioè questo veramente infatti ho detto se hai soldi e tempo infinito. Ah, ok. Non avevo colto la parola infinito. No, però questi qua di BioWare hanno creato un universo proprio che non ha niente da invidiare a quello di Star Trek, per non parlare di quello di Guerre Stellari, come... non parlare di Guerre Stellari, che mi metto a bestemmiare, per favore. Odio quella serie, odio appunto, è un dico. Mistero il motivo di cui ci abbia avuto questo successo. Forse. Era roba che avrei trovato stupida a 12 anni, non so veramente. Vabbè, dai, i film vecchi avevano il loro fascino. Sì, mi sono inserito per... No, ma i film nuovi fan cagare, ma è roba che diverte i bambini. No, anche quelli vecchi, Ma secondo me che faccia cagare o meno, c'ha un senso suo come operazione, commissione, questo che vuoi, dai, su, ammetti, no, che era una roba sai cos'è? La prima volta che ho visto Guerre Stellari c'avevo 18 anni, quindi mi ha fatto un po' impresso, ci ho detto, cazzo è Star Wars? Come ho visto gli orsetti e i robottini. L'ho visto un po' prima. Gli orsetti però erano già nel terzo. Sì, peraltro in uno dei filmati d'epoca, delle prime proiezioni del Ritorno dello Jedi, cioè davanti a un cinema uno con un che cartello che fa cagare comunque il Ritorno dello Jedi, esatto, diciamo. Con un cartello con scritto Ewoks sucks prima di andare a vedere il film, questo per fare e questo la dice lunga anche sul tipo di fan che c'hanno questi. Esatto. No vabbè, quello poi è tutto un altro capitolo che non aprirei. Comunque poche balle, Mass Effect 2 è una gran figata, aspetto il terzo con un sacco di erezioni. A me piacerebbe se ci fosse una serie TV basata su Mass Effect invece del gioco. Ma no, perché farebbe sicuramente cagare. No, secondo me invece la serie TV costerebbe 2-3 occhi della testa, però secondo me potrebbe essere un'ottima idea. Candidati come promotore di questa cosa. Fai una petizione su Facebook. Esatto. Ma serie TV funzionano sempre. Tantissimo. Andiamo avanti. Tutto quelle riguardo il capo del governo. Vabbè. Quale governo? Andiamo avanti. Parlo subito dell'avventura, ovvero di Back to the Future The Game Episodio 1, che insomma sono quasi alla fine della puntata. Ma no, dai, ma dura due ore. No, è facilissimo, dura due ore. Devo essere sincero, mi ha un filo annoiato, anche se da grande fan dei tre film, effettivamente prende proprio lo spirito del film e lo ricopia perfettamente, cioè è un'operazione da fan perfetta. L'avventura è una puttanata, diciamolo, di una facilità imbarazzante. Devo ancora fare quattro cagate per finirla. Mi sono messo a giocare a Mass Effect 2, puoi capire che insomma. Però la cosa peggiore è che dal punto di vista proprio dell'avventura è che ci sono degli enigmi ripetuti, cioè cazzo sono due ore, devi ripetere tre volte lo stesso meccanismo, non dico quale perché insomma. Però insomma, questo è un po' ma secondo me imprestito. Attenzione, proprio... io butto lì così un'affermazione di cui non sono neanche convinto. Okay. Secondo me gli ultimi giochi di Telltale, attento a cosa stai per dire, delusioni eccetera, stanno dimostrando che in fondo sono un po' un bluff questi qua. Ok. Basta, ma non voglio neanche discuterne, era solo per buttare lì una cazzata. Va bene, arrivederci. Me ne vado. No, comunque devo dire che da fan della serie mi è piaciuta il clima che si respira nel film, però, cioè nel gioco, però non è un gran gioco, ecco, insomma, tutto sommato. Però secondo me la cosa più vicina a, insomma, un sequel che potessimo sperare. Ah sì sì sì, no beh, un quarto film, meglio questo che Indiana Jones 4, il film. Cioè, vabbè, vero, scusa. Ce n'è. Lì proprio, cioè, stai sparando sulla Croce Rossa. Sì, sulla Croce Rossa in fiamme. Che tra l'altro è sempre bello farlo. Tutti i giorni giro per Milano alla ricerca della Croce Rossa in fiamme. Però scusate, la cosa che mi ha intristito di più in assoluto di questo gioco, che mi è piaciuto molto, però c'è una cosa, secondo me, è proprio la tristezza, Christopher Lloyd. Ma la voce, dici? Ma proprio un, cioè, lo so che c'ha 160 anni, però ma difatti credo che abbia superato di gran lunga Matusalemme con le è sempre stato vecchio, lui secondo me a 8 anni era in quel modo, cioè era già così. Se sì, lo vedi in Ritorno al futuro, che ha fatto andare a 22 anni, insomma. No, però la voce di Christopher Lloyd in questo gioco è veramente sembra che è stanco. Cioè, scusa, Marty! Cioè, l'avranno messo in una stanzetta con una cuffia, un microfono a leggere le battute, cioè, sì, poi hanno tolto dall'ospizio. Esatto. Poi gli hanno fatto vedere la grafica e lui ha pensato, ma perché, insomma, cioè, altri gli fanno doppiare Uncharted, Killzone, a me sti quattro pupazzetti di merda. In effetti, poi, fra l'altro, il suo personaggio è di gran lunga il peggiore. Eh sì, perché quando, sì sì, a parte giovane, un idiota di merda. Poi vorrei sottolineare che è stato fatto a scrivere allo sceneggiatore originale che ha usato le idee scartate. No, ma la sceneggiatura nel senso, la storia, l'ossatura della storia è bella, è proprio Ritorno al futuro. Come diceva Ferruccio, ci sono delle cose ripetute. Alcuni enigmi, chiamarli enigmi è un'offesa all'intelligenza umana. No, ma mi stai facendo venire voglia, No, secondo me non è però lo consiglio. Però lo consiglio. Ai fan di Ritorno al futuro, sì. A un avventuriero che non gliene frega una mazza di Ritorno al futuro, no. Vabbè, se non ti piace il Ritorno al futuro, cioè no. Magari lo facevi per sparati, dai. Scusa, cosa campi a fare? Dai, sul serio. È una di quelle serie, secondo me, che non si possono non amare. Cioè. Concordo, pienamente. E invece chiuderei la mia, insomma, giro di giochi giocati con un'avventura che si chiama 999. In realtà il nome originale è 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors per Nintendo DS. E ho scoperto che è un esponente di una nuova serie di un genere che si chiama Visual Novel, ovvero, e questo l'ho capito giocandoci, è praticamente un racconto, perché c'è tantissimo da leggere, quasi tutta lettura il gioco. Ma è scritto, e la cosa bella è che è scritto veramente bene, cioè a me questo gioco è piaciuto tantissimo, difatti credo che su Metacritic abbia 8.9, 9, 9.2, cioè ha un voto altissimo per una cosa. Su Destructoid ha preso 10, se non sbaglio. Su Destructoid ha preso 10, esatto. Che però questo non vuol dire assolutamente nulla, No, però beh, insomma, c'è chi l'ha adorato, mettiamola così. No. Secondo me è una, come dire, un'esperienza particolare, perché è come leggere un romanzetto dell'orrore, del terrore, anche perché la storia sono 9 persone chiuse in una nave che sta affondando e a 9 ore per scappare attraversando 9 porte segnate con del sangue, comunque segnate di rosso. E il fatto è che c'è tantissimo, appunto, la storia è quasi tutta narrata a schermo, e ovviamente c'è la grafica statica delle sezioni molto alla Ace Attorney, roba del genere, e il character design è quello, e poi ogni tanto si entra in una stanza dove bisogna risolvere un enigma per uscire da questa stanza da un'altra porta per proseguire l'avventura. Il gioco ha molteplici finali ed è una delle pochissime volte che mi sono messo a rigiocarlo per vedere il finale vero, il finale sfigato, molto alla Silent Hill. Secondo me è un gioco molto bello, certo non è per tutti, ma prima di tutto è tutto in inglese e c'è tantissimo da leggere, tantissimo. E secondo, deve proprio piacere, insomma, una trama peraltro abbastanza adulta, splatter da morire in certi punti, con delle descrizioni di uccisioni terrificanti. Se uno non c'ha voglia di provarlo, è una valida alternativa al giochino scemo per Nintendo DS, sicuramente. Bello, però questo genere qua non è una cosa tipo che in Giappone c'è da sempre? Credo di sì. Sì, credo se non il primo, comunque un rarissimo caso di arrivo in Occidente di un esponente di quel genere. Credo sia proprio uno dei primissimi, sì, perché alcuni di... Io non ho neanche visto Ghost Trick, ma non credo sia proprio la stessa. No, no, no, Ghost Trick è un puzzle game. No, difatti. No, questo è... Sì, leggevo anche che io che era il primo esponente di una serie, di un genere che in Giappone comunque va... Ed è, la cosa bella è che è ben scritto. Io mai mi sarei, io odio, detesto i giochi dove c'è tanto da leggere. Qua invece mi sono proprio fatto prendere. È bello, certo il character design è molto giapponesoide, stili, insomma, i soliti cliché, però bello, bello. Tutto qua. Ho finito. Ferruccio. Sì, sì, io partirei con vabbè, insomma, di Red Dead Redemption abbiamo parlato prima, però e poi vabbè fa anche un po' parlarne dopo a un anno dall'uscita, però è un gioco che mi sembra fenomenale, mi piace, mi sta piacendo moltissimo, c'ha una trama che mi sta esaltando non poco, mi piace molto, mi sono molti personaggi, c'ha ancora un poco, un po' meno rispetto a GTA, però c'ha la stesso tipo di satira alla base, o comunque, cioè è più serio di GTA, però c'ha ancora quel tipo di comicità in alcuni punti, di satira che insomma è un pochino pesante, cioè non è proprio la cosa più raffinata del mondo, cioè, era un po', non so se vi ricordate Republican Space Rangers in GTA. No, c'era questo show in TV in cui c'erano questi quattro tipo Marines spaziali che uccidevano queste popolazioni, sterminavano proprio, erano i Space Ranger repubblicani ed erano degli idioti che sparavano a questi alieni pacifici, li proprio stupravano, distruggevano, ed era insomma, cioè, come satira non è proprio la cosa più raffinata, più sottile che esista, a volte è divertente, a volte dici vabbè, cioè. Quel poco che ho giocato a Red Dead Redemption mi è parso che per la prima volta in un gioco Rockstar tu fai tutto sommato un vero eroe, cioè un vero, sì, buono, non cioè, sì e no, perché comunque a parte vabbè lui ammazza eserciti come se nulla, sì, fosse, però vabbè questo ci sta anche, insomma non è che potevano fare il gioco che stai lì a, non a so, pettinare le bambole, esatto, che stai lì a cavalcare nelle praterie. Anche se puoi effettivamente muovere le mandri di mucche, quindi c'è anche proprio il vero cowboy che quello fa, cioè un pecoraro, e lui sì, va caro, cioè. Però a parte questo, sì, John Marston è un eroe, e poi vabbè, a me alcune cose un po' danno fastidio, perché cioè se lui è un eroe, okay? E lui lo è, e lui ha... cioè c'è questa cosa che odia le persone con cui ha a che fare, però poi come al solito si fa trattare da galoppino da chiunque, un bravo Fuel, un bravo uomo. Ma no, ma chiunque arriva, senti, fammi ad ammazzare questa persona, e lui, ah sei un pezzo di merda, e vado ad ammazzare la persona, cioè, vabbè, lì è il solito problema dei giochi che ti raccontano una cosa, ma poi no, quando ma questo giochi non è... No, ma questo non è neanche, questo è proprio anche all'interno del racconto che è un po' strana. Ma perché lì devono darti le missioni e quindi sarà così, no? Sì, però insomma potevano perché hanno preso la strada giusta, cioè ora non c'è più il personaggio che vuole redimersi, però si mette ad ammazzare gente. Il personaggio vuole redimersi, ammazza gente, però lui crede che si possa redimere, cioè è l'unica possibilità che c'ha. Lui crede che non si possa ammazzare la gente. No, nel senso Nico Bellic poteva andarsi a trovare un lavoro. Sì. Beh, se voleva veramente cambiare vita, ma sai, è un po', secondo me c'è un po' una metafora razziale, vabbè, no, niente. No, ma c'era. Il sogno americano e tutte queste cose. Comunque, insomma, gran gioco, bellissimo, bella atmosfera. Nulla, spero di finirlo. Ho paura che comincerà a raccogliere le 100 stronzate. No, dai. Sì, purtroppo. Sempre nell'ottica del gioco che tradisce un po' il senso del racconto, ti metti a raccogliere le stronzate. No, poi loro. Sì, stai lì a raccogliere i fiori se vuoi. Quindi siamo quasi a pettinare le bambole. Poi, no, poi questo gioco è fatto da quelli che avevano fatto Bully, Canem Edit, sì, su cui io ho lavorato, c'è il mio nome nei titoli di coda. E c'ha un po' lo stesso problema che, devo dire la verità, quando abbiamo lavorato su Bully un po', ci faceva girare i coglioni che questi qua avevano deciso di mettere nel gioco tipo 300 capi di vestiario e testare queste cose, quando a volte una pettinatura ti fa mandare in crash il gioco, non è una cosa bella, perché non è facilissimo. E questi qua, credo che sia San Diego. Sì. C'hanno sta tendenza un po' a mettere un milione di cose, sì. Raccogli 150 cacche di mucca per sbloccare il cappello, insomma. Beh, comunque ha vinto 5.000 premi anche Red Dead Redemption l'anno scorso, quindi il motivo ci sarà, insomma, il motivo è che è bellissimo. Esatto. Comunque ho appena realizzato una cosa che non chiedetemi come mi sia venuto in mente, ma sono andato a vedere adesso arrivo al dunque. Comunque sono andato a vedere quando è uscito Gun, il gioco western di Activision, ed è la fine del 2005, perché mi sono ricordato che quando Activision aveva presentato Gun all'E3, quindi penso nel giugno di quello stesso anno, del 2005, sostanzialmente erano stati eclissati dal fatto che Rockstar aveva fatto un motore grafico ad ambientazione western. Cioè questi qua presentavano Gun, ah guardate che figata, e Rockstar, no calmi, abbiamo il motore grafico western. E mi chiedo, cioè suppongo di sì, ma cacchio, cioè era 6 anni fa, ci hanno messo 6 anni a fare Red Dead Redemption. No ma scusa, già era uscito il primo Red Dead? Sì, mi sa, credo di sì, ma soprattutto... Che non era fatto da... Non tocchiamo il primo Red Dead, che poi ci si scatenano polemiche. Sì, vabbè, ma quello era un gioco che aveva per far contento quel cretino del tuo capo. Era un gioco, Red Dead Revolver, che era stato iniziato da Capcom e poi l'aveva preso in meno, soprattutto in mano Rockstar. E a questo punto controllo quando cacchio è uscito Red Dead Revolver, nel 2004 era precedente. Quindi cacchio, 6 anni se non di più, perché se fa... non solo 6 anni, poi in condizioni di vita disumane, se vi ricordate la polemica delle mogli dei che cosa brutta, che cosa brutta. Vabbè, era così un inciso. Sì, però è dovuto. Perché io mi ricordo queste. Io non ricordo, non so, tipo se adesso prendiamo accordo per fare una cosa domani, io fra 10 minuti me lo sono dimenticato. Però mi ricordo che nel 2005 Rockstar aveva fatto vedere il motore grafico western. Guarda, questo succede a tutti gli anziani, che si ricordano le cose antiche, però poi non si ricordano cosa hanno mangiato il giorno prima. È come Memento. Che... Va bene, andiamo avanti, dai. Sì, andiamo avanti, e qua vabbè, Little Big Planet 2. Vabbè, io vado a prendermi un'altra birra. Ecco, esatto. Allora, cosa cambia da Little Big Planet 1? Diciamolo. Che è più meglio. No, dunque, cosa cambia? Cambiano tantissime cose, anche se alla fine il gioco è più o meno, vabbè, c'è un seguito, quindi un seguito è un'espansione in tutte le possibili direzioni del primo. Secondo me è un gioco che ha molte possibilità di convincere chi non era molto convinto dal primo. Sia perché... sia perché adesso, cioè, hanno fatto di tutto. In realtà è un po' strana sta cosa, perché invece di dare alla gente che rompe i coglioni il salto maledetto che tutti volevano, quindi invece sarebbe di... Sarebbe stata una gran cosa, però, eh? Però non lo so se lo puoi fare. Cioè, se devi interagire con la fisica, mi sa che un salto alla Super Mario non lo puoi fare. Perché ti rompe un po' il gioco, cioè perché... No, perché non c'entra niente con la fisica. Sì, infatti. Cioè. Quindi cosa hanno fatto? Ora, cioè hanno fatto, praticamente è come se per muoversi ruoti il pianeta invece di camminare. Hanno fatto... Come i giochini con la pallina, quelli con i buchi. Marble, sì. No, hanno fatto in modo che ci sono tutti questi elementi, che so, i bounce pad, il rampino, anche il design proprio dei livelli, che fa in modo che non ci siano, cioè non è Super Meat Boy, non è un gioco di piattaforme in quel senso. E quindi il problema personalmente, cioè, secondo me, non si sente anche meno di quanto si sentisse nel primo. Fra l'altro il salto è leggermente più reattivo. Diciamolo è nel salto vero e proprio, non lo è nel comando in aria, cioè ti puoi ancora muovere tantissimo in aria, sì. Però il salto in sé, cioè proprio il movimento, il momento in cui lui si stacca da terra è un po' più reattivo. Comunque ti puoi sempre aggrappare, fare insomma, tutte le cose che potevi fare nel primo, immagino. Sì, a me, come io ho sempre detto, per me è un'evoluzione di quel tipo di platform alla Oddworld, che sì, non è tanto basato sul... cioè più basato sull'interazione con l'ambiente che sulla precisione perfetta fisica. Sì, e infatti anche i livelli migliori, anche quelli della community, si basano su questo concetto. Però Little Big Planet 2, a parte tutto questo, c'ha una variazione da livello a livello che è, credo, l'ho scritto sul forum e la gente è esplosa. Le persone sono proprio esplose. Ho detto che mi ricordo un poco Mario Galaxy in quanto a variazione, cioè il fatto che ogni livello fai cose diverse e fai cose radicalmente diverse, cioè ti stupisce ogni livello, a parte un paio di livelli all'inizio che sono dei tutorial un po' che, insomma, vabbè, però a parte questo, ogni livello ci sono alcuni minigiochi che secondo me se uscissero su Live Arcade la gente si strapperebbe le mutande perché farebbero il botto da soli questi qua. Sì, c'è questo giochino c'è questo minigioco in cui praticamente tu c'hai comandi allo stesso tempo due Sackboy però i comandi sono gli stessi, non so se cioè praticamente tu devi raggiungere l'uscita con due Sackboy che fanno le stesse cose con i tuoi che fanno le stesse cose però la geometria del posto in cui stanno è diversa, quindi devi stare attento un po' e sta cosa è geniale, cioè è divertentissimo, dura 10 minuti però io ci giocherei volentieri 3 ore a un gioco così. Ma che mi pare ci sia un gioco su Kongregate che fa una roba simile. Sì, mi sembra di aver visto un qualche gioco indie, non però penso. Sono solo, cioè sei, non mi ricordo se ci sono situazioni in cui ne hai tanti di cloni, di sicuro c'è tu e un altro su che ti muovi, devi arrivare all'uscita, però i livelli, le due mappe sono diverse, quindi devi gestire. E questo per fare un esempio, ci sono vabbè livelli sparatutto che non sono male, cioè secondo me sono meglio di alcuni sparatutto classici che vengono sannati ancora oggi. E poi è bellissimo vedere. C'ha qualche problema dal punto di vista stilistico perché i concept di alcuni livelli sono un po' strani, cioè tipo il livello steampunk. Madonna. Ispirato però con elementi di pasticceria, quindi ci sono queste cose steampunk, però come materiale c'è tipo il cioccolato e il marzapane. È veramente strano. C'è un manicomio ambientato in una foresta. però, e quindi insomma, in alcuni casi è un po' troppo. Cioè, nel primo c'era che so, la calavera messicana, no? Il giorno dei morti messicano. Sì. Ed era figo, insomma è un concept abbastanza, cioè lo capisci se sai più o meno cos'è. Qua hanno fatto secondo me una cosa un po' troppo, non lo so, hanno fatto una cosa un po' strana. Però scusatemi per finire, sì? questo gioco va giocato anche soltanto perché c'ha una sequenza, una cutscene, che credo sia la cosa più psichedelica che ho mai visto in un videogioco. C'è un personaggio che parte in una specie di delirio lisergico e comincia a delirare parlando, non lo so, tipo di fiori che spuntano su mari di salsa, cioè tipo... Molto cosa bene, così. Molto bene. Senti i colori e vedo i suoni, una cosa del genere. Esatto, okay, esatto. Perfetto. Comunque mi sembra che il gioco non ti abbia deluso, ecco, questo no, seguito. No, ancora non ho provato l'editor, ma non so neanche se... Potresti smettere di vivere se lo provi, nel senso che... No, però insomma, anche il fatto che c'hanno quel sito, adesso non so se... Sì, sì, che puoi scaricare direttamente le... Puoi mettere in coda i livelli. Esatto. A ogni livello associato un indirizzo, un URL, quindi... Questa è una geniale, quello che mancava tanto al primo. Una cosa sì. Quindi nulla, bello. E finiamo, dici con l'ultimo che vedo qua in scaletta, se vuoi. Sì, finisco. Non è, in realtà non credo che neanche parlerò del gioco, è pubblicità. Comprate questo cazzo di gioco, comprate Vanquish. Ok, ecco, beh, non ho detto. Vanquish. Beh, potevi non dirlo, così lo dovevi lasciare da capire. Esatto, comprate questo gioco. Guarda, se non è Bayonetta, non è Little Big Planet, cioè, c'ho poche ossessioni. No, Vanquish, che è il gioco più sottovalutato dell'anno, insomma, la gente lo ha odiato con una passione rara, ed è secondo me un gioco bellissimo, è Bayonetto quasi, Secondo me è stato anche sottovalutato, perché dopo anni che non usciva più una mazza di questo genere qua, di altissimo livello, è uscito Bayonetta e poi questo ha un, sì, un tratto di tempo molto, molto... Bayonetta è meglio. Sì, sì, no, dico, però appunto, secondo me, cioè, uno manco non se lo aspettava magari. Poi io per esempio giocando il demo non ho capito che era così tanto diverso da un Gears of War, cioè esatto. E questo è più o meno anche lo stesso problema che aveva Bayonetta, perché Bayonetta insomma cominciavi ad apprezzare la profondità delle meccaniche più o meno alla seconda tornata, cioè se lo giocavi una volta è probabile che non ti accorgevi del 90% delle sfumature del sistema di combattimento. La guida di Bayonetta che io ho e che qualcuno sta tentando di vendere su eBay a $700. Che troia! Perché non si trova più. Ma sono 400 pagine, piene di informazioni. Cioè, mi sembra chiaro che questi non sappiano fare i demo comunque, se posso dirlo. Ma non sanno fare... Perché il demo di Bayonetta era raccapricciante. No, ma non... Sì. Ricordo anche, non sanno fare la prima tornata dei loro giochi, cioè sono troppo idealisti, sperano che la gente dia un gioco 12 ore di tempo prima. Beh, di però dai, alla fine anche il suo fascino, nel senso che comunque secondo me Bayonetta ti puoi divertire, cioè non lo capisci se vogliamo, ma ti ci puoi divertire anche finendolo una volta sola. Non lo so se ti puoi il bordello, la zoccola, i mostri giganti, tiro i cazzotti, ah vabbè, è come Dante's Inferno, ci sono le tette. Cioè, ti deve piacere quel tipo di estetica giapponese, ma al di là di quello, se non lo approfondisci, diciamo, ti sembra un God of War un pochino più articolato perché c'è questa cosa dello slow motion. Poi invece se approfondisci ti rendi conto che è molto più articolato, cioè Bayonetta ne contiene 4 di Dante's Inferno come profondità. Sì, sì. Però non lo so, io ho finito Bayonetta la prima volta, ho detto vabbè carino, però vabbè, perché sei un po' stupido, hai questo problema. No, ma guarda, è al contrario, se io ho un'esperienza superficiale così mi intristisco, quindi no, però insomma capisco anche che non lo so, Vanquish giocato la prima volta secondo me un po' esattamente ti sembra un clone un po' merdoso di Gears of War, perché in realtà c'ha sti controlli molto leggeri, mm-hmm. E magari non ti dà neanche la sensazione di violenza che ti dà un Gears of War. Poi ti accorgi che i controlli sono leggeri perché puoi fare cose pazzesche, cioè puoi tirare una granata, sparargli in aria, farla esplodere e poi finire dando un calcione volante al mostro che ancora non si è ripreso dall'esplosione. Insomma, è una roba esagerata. Sì. Esagerata. Bene, Andrea. Ha venduto 10.000 copie. Davvero venduto poco, solo 10.000, no dai, no era tipo 100.000, però insomma tristissimo. Cazzo, però. Madonna, però sono veramente poche, 100.000 100.000 per un gioco del genere sono... Bayonetta non è andato così male, o sbaglio? Bayonetta ha venduto un paio di milioni, non dire che non è andato così male. Sì. Beh, è andato bene, mi sembra, no? Per un gioco comunque con un'estetica a mio avviso discutibile, però... Vabbè dai, ha venduto come V-Rain, è una cosa quei due giochi ce l'hanno in comune, un personaggio femminile squallido. Madonna. Sì, no, comunque Vanquish secondo VG Charts, sommando le due versioni, ha venduto quasi 500.000 copie. Vabbè, dai. Vabbè, è un cazzo. Esatto. Per quelli che sono gli standard del ha successo o non ha successo. Una misera figura al botteghino. Invece, Andrea, cosa hai visto di bello? Se puoi parlare, proprio due cosette così. Eh sì, perché io non ho giocato granché di recente perché ero continuamente in viaggio. Sono stato all'evento di Electronic Arts in cui hanno presentato i giochi in uscita, diciamo, nella prima metà dell'anno, e all'evento di Sony in cui hanno presentato, non credo tutto quello che uscirà quest'anno, però insomma ce n'erano 10 di giochi, per cui posso parlare di tutto tranne di Crysis 2 e di Dragon Age 2, a meno che tu non faccia uscire il podcast martedì sera. Ma no, penso che uscirà prima, quindi non parliamo di Dragon Age 2. Posso dire sti cazzi? No, però di Crysis 2 dico una cosa sola, che rispetto all'ultima volta che l'avevo visto, e credo ne avevo parlato anche qua, è migliorato moltissimo. Oh, bene, oh, sia da giocare, sia esteticamente. Mi ha sorpreso molto, perché ormai ero convinto che sarebbe stata una merda allucinante. Ma non manca neanche tantissimo, mi sembra, no? No, esce a fine mese, se non sbaglio. Ah, ecco. No, a marzo esce tra... sì, ma mi pare esca a fine febbraio o vabbè, sì, comunque vicino a Killzone 3. Ah sì sì, no, vicino a Killzone 3, è vero, sì sì sì, Killzone 3 esce a fine febbraio, il 28 febbraio, 27, 25. Allora la versione PS3 di Crysis 2 venderà tantissimo, tantissimo. Eh sì, c'è questo inconveniente. No, scegliene uno e uno, dai. Uno di Electronic Arts e uno di Sony. Vabbè, allora Electronic Arts. Sony parla di Uncharted 3. Non allora, Electronic Arts per forza porta al 2. Ecco. Non ci sono cazzi. Anche se purtroppo ho giocato solo 3 livelli della cooperativa. Sì. Che però è molto figa, perché come cioè è fatta benissimo, è fatta da Valve in maniera molto intelligente, sono i 3 livelli iniziali, quindi proprio siamo a livello di tutorial, e che tra l'altro danno per scontato che tu abbia giocato il single player, o perlomeno Portal 1, perché non ti spiegano minimamente come funziona la pistola, eccetera. Ma questo mi piace di Valve, che vaffanculo, devi giocare per i giochi prima. No, però è fatto molto bene nello spiegarti come devi collaborare, tant'è che addirittura nel primo livello si è separati, proprio perché ti costringe a fare le cose in funzione del fatto che devi aiutare l'altro. E poi avanti. È molto molto divertente, c'è proprio quell'umorismo fantastico di Portal. Ho provato delle cose nuove, pochissimo, c'è questo raggio laser che riscalda quello che tocca, sì. E hai un cubo che permette di riflettere il raggio e direzionarlo, quindi lo puoi usare come arma contro le torrette, mitragliatori eccetera, e ovviamente come roba per aprire interruttori. È fatto molto bene, almeno da quello che ho visto, nell'ottica di appunto collaborazione, cioè situazione tipo crei 2 portali, l'altro si butta nei 2 portali, sai, quelli uno sopra l'altro, sì, sì, sì. Cadere, dopodiché gli piazzi un portale per fare in modo di lanciarlo dall'altra parte, cioè tutte queste cose che si può fare solo collaborando. Apro un portale così tu entri in quel posto e mi puoi dare l'oggetto che io devo usare per metterlo sull'interruttore, così bellissimo. Ti apro la porta. È molto, cioè sembra una figata, sembra la figata che ci si aspetta da Portal 2, mettiamola quando, così. Quando uscirà? Ad aprile, sì. Aprile, sì. Comunque scusate, ma Crysis 2 esce il 25 marzo, quindi no, un mese dopo Killzone 3, e quindi diventerà comunque tantissimo in versione PS3, scusate. Tra l'altro, ma sì, lo dico. O pochissimo. Tra l'altro, ma sì, lo dico, l'ho visto in 3D Crysis 2 e hanno fatto gli sboroni, perché me l'hanno fatto vedere su 360, che teoricamente è la versione su cui il 3D gira peggio, presumibilmente, sì. Ed è una figata, cioè. Sicuramente se li metti di fianco non ti accorgi, cioè noti le differenze, ma giocandolo a mezz'ora di distanza non ho notato differenze. Sì, sì, le differenze. Comunque non devo dirle queste cose. Se vuoi lo taglio, Ma che cazzo me ne frega. Segreto di Pulcinella. Infatti, ma poi l'hanno detto anche loro, quindi. No, è che l'hanno detto loro. No, Portal 2, tra l'altro delle cose che dicevamo prima, mi sembra sì, no, abbiamo detto tutto di Steamworks, il fatto che se lo sblocchi, lo compri su PS3 ce l'hai anche su PC, il multipiattaforma, no, sì, beh, abbiamo detto tutto, quindi taglia questa cosa. In realtà l'abbiamo detto prima di registrare, ma fa lo stesso. Ah, ok, no, vabbè, allora lo dico, scusa. Infatti, anche se sono cose note, però se vuoi le dico. Dille, sì, sì, sì. Beh, sì. Insomma, parlando con Chet Falizek, vi ha spiegato come funziona Steamworks su PS3, che si potranno, cioè praticamente sarà come avere su PC, nel senso che gli aggiornamenti saranno contemporanei, i mod ci saranno anche su PS3, ci sarà il multiplayer cross platform, e se tu lo compri per PS3 e ti registri sullo Steam di PS3, sì. Puoi sbloccare anche la versione PC, non puoi fare il contrario perché vabbè, ci sono i problemi di royalties per Sony eccetera, però insomma, quindi vuol dire che lo puoi giocare sia su PS3 che su PC, insomma. Ma secondo te è solo proprio una questione di soldi per cui Valve 10 minuti prima diceva merda, morirete tutti voi di Sony, e 10 minuti dopo è la versione migliore di Portal 2 con... No, ma sai, il fatto che PSN è molto più libero e gli permette di fare sostanzialmente il cazzo che vogliono, credo che a loro piaccia. Ma io credo che loro abbiano avuto un po' di scazzi con Microsoft per gli update di Team Fortress, di Orange Box, e sia per Left 4 Dead 2, perché loro volevano rilasciare dei aggiornamenti gratuiti, ma Microsoft non permette aggiornamenti, cioè non permette espansioni gratuite. Esatto, sì. Quindi... infatti invece su PS3 possono addirittura fare Steam, per cui voglio dire. Sì, possono fare anche i mod, mettere i mod degli utenti. Bene. È paradossale, tra l'altro, perché cioè, fino a qualche anno fa sembrava, e non è che fosse stato esattamente un gran successo, che il multiplayer fra console e PC si potesse fare solo fra Xbox e PC. E invece alla fine finisce che su PS3 c'è il migliore esempio di cross-platform. Sì, con un titolo di super punta, peraltro, non con la stronzatina. Infatti. Però solo Valve poteva tirare fuori una cosa così. Eh beh, sì, no, indubbiamente. Mentre invece sul fronte Sony, allora, tu vorresti che io parlassi di Uncharted? No, parla di quello che no, più che altro che desideri. Mi sembra uno spreco perché Uncharted 3 l'ho solo visto, non l'ho neanche giocato. Okay. Posso dire che me l'hanno fatto vedere un pezzetto in 3D, sembra figo, e vabbè, cioè ci sono le fiamme, esplode tutto. No, vabbè, io in realtà di due cose vorrei parlare. Una è Resistance 3. Perché io so che Resistance non è una serie esageratamente amata, però a me il 2 era piaciuto, parecchio. Allora, Resistance 3 a me sembra interessante perché innanzitutto è molto migliorato come grafica, come impatto fisico anche delle armi, c'è un bel rincu, cioè proprio ti dà la gioia di sparare in faccia ai mostri. Che questo era un problema che in Resistance era un po' leggerino, tiravi spillette dei mostri di carta, insomma. Esattamente. E poi hanno recuperato, secondo me, se non tutte, perlomeno le più interessanti fra le cose che c'erano nel primo Resistance, cioè il fatto che i combattimenti sono in questi spazi molto aperti, arrivano tonnellate di alieni, poi l'intelligenza artificiale mi sembra buona, saltano in giro, si nascondono, corrono, e il fatto che ci sono delle armi che sono fighe, vaffanculo, fammele portare tutte dietro. Hanno rimesso la rotella con 8 armi da selezionare e non solo 2. Che secondo me ci sta troppo bene in Resistance, perché sono belle le armi di Resistance. Cioè, è quella che spara. Perché attraversa i muri è bellissima. È una figata. Tra l'altro, il boss che c'era nella demo si appoggiava molto su quest'arma, perché in pratica è il classico boss che ha dei punti deboli, e se usi quell'arma puoi vedere dove sono i punti deboli. Oltretutto si muove di continuo questo tizio enorme, quindi se tu gli spari con l'arma che passa attraverso i muri, cioè gli passa attraverso il braccio e colpisci il punto debole. Bellissimo. E quindi è bello. L'altra cosa di cui volevo parlare è che ho provato più giochi in 3D, Socom, Resistance e Killzone. È figo, ma no. Cioè, giocare 3 ore così. Allora, devo dire che dipende dal gioco. Scusate, mi sono confuso. Resistance non era in 3D, erano Socom e Killzone erano in 3D. E dipende dal gioco, però, e dipende molto da come lo regoli, perché entrambi i giochi hanno all'interno più cose che puoi impostare, quanto lo vuoi profondo, quanto vuoi forte l'effetto, eccetera. E su Socom abbiamo cominciato a mettere tutto al massimo, ed era come prendere dell'LSD, cioè improvvisamente si muoveva tutto, vedevo 3 pali invece che uno, roba del genere. Però cambia abbastanza da un gioco all'altro, perché ad esempio su Socom c'è anche il fatto che hai il personaggio davanti, mentre in Killzone ovviamente no, che comunque cambia un sacco la percezione delle cose. Ma in meglio o in peggio? È diverso. Perché comunque hai una roba costantemente in primo piano, mentre in Resistance no. Non saprei dire se è meglio o peggio, di sicuro ti dà molto di più il senso di profondità, perché hai un elemento lì che si stacca da... Tra l'altro non so se... di recente ho letto un articolo proprio sui problemi del 3D, e oltre al fatto, ad esempio, non so, poi magari mi puoi dire se secondo te hanno risolto questo problema, che si parlavano gli sviluppatori di Killzone 3 del problema della linea di mira, perché quando lo metti in un contesto davvero 3D il mirino non è, cioè se va in linea retta va, che so, verso l'alto, verso il basso, non è... Mentre invece su un piano in 2D, non so se mi spiego, su un piano in 2D... No, sì, certo. Però dico, a parte questo, questo articolo parlava pure del fatto che il 3D c'è il problema che non hai quasi visione periferica. Guarda, allora, secondo me lì sta alla bravura di chi lo sa. Ah, ecco, comunque oggi ho provato anche Motorstorm in 3D. Che però lì è una situazione diversa, perché comunque è un gioco di guida, cioè non decidi tu dove guardare, dove andare, la visuale è quella e sposti la macchina. E tra l'altro secondo me è anche bello con un gioco di guida, perché insomma vedi la pista che va avanti, il senso di profondità è spettacolare, insomma. Comunque, vabbè, il discorso della mira io sinceramente non ho notato particolari difficoltà nel prendere la mira, nel giocare. Sulla visione periferica credo che dipenda molto dalla consapevolezza di chi sviluppa il gioco. Sai, alla fine su queste cose qua devi essere anche bravo tu a costruire poi anche, penso, il design dei livelli, il motore grafico per girare attorno a questi problemi. Sì. Devo dire che in Resistance c'è un senso di profondità fantastico, cioè l'orizzonte lontanissimo, e Aspetta, Resistance detto cioè, sto continuando a confondermi in Killzone. Okay. In Killzone c'è un senso di profondità pazzesco e ci sono c'è questa ambientazione con fuliggine, robe che svolazzano, è molto bello. Devo dire sempre allegro quel gioco. Sì, molto colorato. Figurati, la trama di Killzone 3 è mi sembrava che avevate vinto in Killzone 2, no, col cazzo avete perso. Adesso dovete scappare dal pianeta. È questa sostanzialmente, vi stanno ammazzando tutti, dovete scappare. Infatti finendo il secondo non avevo queste impressioni di vittoria. No, però tipo avete ucciso il tipo a un minimo, è quasi un po'... No, siete morti. Tra l'altro anche Resistance 3, è, cioè la trama è, sono passati 3 anni, l'umanità è quasi estinta. Comunque, dicevo del 3D, devo dire che dopo aver giocato una mezz'oretta in 3D, poi sono andato a provare tipo il co-op, che tra l'altro è solo offline, solo in split screen, non c'è online il co-op sulla campagna, perché hanno detto che semplicemente non c'avevano tempo per farlo, e effettivamente dopo che l'hai giocato in 3D, rigiocare lo stesso livello in 2D fa molto meno figo, come dire, cioè è molto spettacolare il 3D in Resistance. È però vero che io sono una... Oh cazzo, in Killzone, vabbè, uccide, sopprimetemi quando ho finito di parlare. È vero che io sono andato a vedere più volte film in 3D al cinema senza avere il minimo problema. Non soffro di motion sickness, sono un figo su queste cose, però mentre giocavo a Killzone 3, con tutto che l'avevo impostato il 3D al massimo per provarlo, quindi magari abbassando lo percepisco meno, percepivo proprio fisicamente lo sforzo degli occhi e quando ho tolto gli occhiali... Ho proprio sentito che mi si è rilassata la vista. Madonna santa. Scusate, ma figa, giocare 3 ore così, minchia, t'ammazza. Se uno porta gli occhiali come fa? Se li mette sopra, è come andare al cinema. Ah, ok. Io direi comodo, vabbè, ho gli occhiali. Io ce li ho da quando ho 6 anni, quindi... Vabbè, non vedo alternative, francamente. O ti fanno gli occhiali graduati, però insomma... Con i cristalli liquidi attivi. Vomiti nel giro di 8 secondi. No, adesso il mondo è in HD, adesso non è più in HD, adesso è in HD, adesso è terrificante. Però vabbè, insomma, cioè l'effetto è molto bello, con però tutti i dubbi del caso. È sicuramente fatto molto bene, fra l'altro devo dire, almeno per quello che ho giocato, ma comunque anche il tizio con cui parlavo, che era il responsabile del 3D, mi ribadiva questa cosa, hanno cercato di non esagerare nell'ottica del ti tiro addosso di tutto, perché è figo il 3D, perché sennò poi, cioè, veramente ti viene da vomitare dopo 5 minuti. Sì, poi Killzone, comunque, come dicevi tu, anche il secondo ci sono degli scenari con un sacco di roba in aria, esatto. Polviscolo, cartacce, lattine, spazzatura varia. Però in quello è veramente, cioè quello, proprio quello stesso livello lì in cui ci sono tutte le puttanate che volano in giro, rivederlo in 2D sembra... Sembra, non lo so, sembra passare da lo stavo giocando a sto guardando il trailer. Mamma mia. Ma tanto io non ho quel problema, c'ho il 2D e basta. Se non hai la TV è inutile che porsi il problema. E quindi, vaffanculo. Bene, è un gioco che aspetto con molto... Saranno i prossimi soldi che spendo, Killzone, al day one. No, beh, visto che il secondo mi era piaciuto tantissimo... Comunque l'ho provato anche con Move, e anche con quel cazzo di fucile che ci metti dentro il controller e te lo... Ma non lo fare. Però guarda che... Cioè, allora... Ma il fucile, neanche c'è la pistolicchia. Ma guarda che dietro il fucile c'è tutto un ragionamento, perché hanno messo il nav controller davanti perché così hai la levetta analogica sulla mano sinistra, come se stessi usando il pad. Sì, io trovo questa cosa però troppo scomoda, nel senso... No, allora, è molto scomoda, ma il problema non è neanche quello, perché comunque si vede che si sono sforzati di farlo funzionare, ci sono una marea di regolazioni che puoi fare, non solo la sensibilità, puoi regolare l'ampiezza della zona morta, quanto è sensibile verso l'alto, verso il basso, si riesce a puoi scegliere se muoverti liberamente, puoi scegliere se fare in modo che quando premi il grilletto per zoomare c'hai il lock su un nemico, che quindi è lockato, però comunque tu puoi mirare in giro ma l'inquadratura segue il nemico che hai selezionato, ci sono una marea di cose, e alla fine se lo vuoi giocare così secondo me è anche divertente, perché funziona bene. Il problema è che è una cosa diversa, perché comunque un FPS tu muovi mirino e camera contemporaneamente, esatto. Qui li scorpori, perché comunque finché muovi il mirino, diciamo, all'interno della zona in cui non muovi la telecamera, stai facendo una cosa diversa da giocare un FPS normale. Concordo. Infatti, in teoria diventa più facile. Ma per un cazzo, cioè, no, perché la tu cosa devi... paradossale è che non è per niente casual, perché riuscire a giocarci bene in quel modo, minchia, ma devi diventare bravo forte. Ma non credo che sia fatto in quell'ottica. Ma guarda che è così, cioè, è chiaro, se abbassi il livello di difficoltà non muori mai, ma col fatto che comunque muovere l'inquadratura è obiettivamente meno immediato rispetto a usare la levetta analogica, non è un cazzo facile affrontare una battaglia in cui hai, per dire, davanti 8 Helghast e devi mirarli, poi magari usi il lock, ti si fissa su uno, intanto gli altri ti sparano. Cioè, devi diventare bravo per giocare bene a Killzone 3 col move. È il fatto che devi acquisire, secondo me, un'indipendenza tra la telecamera e dove stai mirando, cioè la porzione che tu vedi dello schermo e dove stai mirando, che attualmente non ce l'hai perché sono la stessa cosa. Vabbè, però è la stessa cosa di quando sono arrivati i controller con doppia levetta analogica, sì, abbiamo dovuto imparare a... Sì, è che magari uno ha la percezione che sia la puttanata per chi non è capace, cioè per il casual gamer, boh, sì, sicuramente il casual gamer è attirato dal fatto, oh figata, la pistolona o il mirino, però in realtà poi è veramente difficile se vuoi giocare a un livello di difficoltà decente. Ma secondo me è anche un livello di difficoltà, nel senso, il solo muoversi e non capire che ti sparano, dopo un po' uno che non c'ha voglia si rompe i coglioni. Sì. Però comunque è fatto bene, cioè secondo me è uno che si sfizia lì, perché c'è da dire una cosa, che è vero che per muoverti, per spostare l'inquadratura è un po' limitante rispetto all'immediatezza del mouse o della levetta analogica, però effettivamente per mirare e sparare è più sto sparando rispetto a muovere una levetta analogica, sei più preciso nel mirare, perché poi soprattutto col fucile punti in giro, è la pataccata perché è il fucile plastico, però effettivamente nella sola esperienza dello sparare alla gente, da un certo punto di vista è più bello. Potrebbero anche fare una periferica che invece tu di guardare una TV in 3D sei in una semisfera e tu giri veramente dietro, davanti, su e giù. Beh, ma infatti il modo migliore per fare questa cosa, secondo me, no, è veramente l'assurdità, è fare gli occhiali, cioè tipo realtà virtuale, tu vedi negli occhiali, no? Hai presente? Sì. No, io a questo punto voglio... L'inquadratura, scusa, però muovi la telecamera muovendo la testa, a quel punto... perdi la minore immediatezza, perché muovi la telecamera istantaneamente girando lo sguardo, sì, e miri muovendo il fucile. Però è una roba allucinante, spesso anche costosa. Sì, però a questo punto, scusami, davvero puoi fare il cavo che si attacca alla base del cranio e c'hai tutto che si gioca nella tua mente. Allora, quindi... io lo dico sempre, l'aggeggio di Strange Days voglio, e basta. Esatto. Finito. Sempre a proposito di cose senza senso che mi ricordo da 50.000 anni fa, io ricordo che a uno SMAU, quindi si parla di almeno 10 anni fa, avevo provato degli occhiali di questo tipo, cioè tu vedi il gioco sulle lenti, tra virgolette, degli occhiali e muovi l'inquadratura muovendo la testa, credo con un Unreal. E boh, io mi chiedo probabilmente perché veramente sono periferiche molto costose, però quello funzionava, cioè muovevi l'inquadratura muovendo la testa, ed era figo. C'è un piccolo problema, però tu avevi due schermini davanti agli occhi che ti simulavano lo schermo grosso, sì, davanti alla... come fai a capire dove stai mirando col fucile davanti alla faccia se lo schermo ce l'hai? Beh, ma vedi comunque il mirino esattamente come in Killzone, se usi il tutto. Mino, secondo me una carneficina. Secondo me sai cosa è successo? Qualcuno durante una fase di testing qualcuno si è spezzato il collo, girandosi all'improvviso. Sì, ma fra l'altro c'era anche tutto il filo, io credo di aver rischiato di impiccarmi ruotando su me stesso. Altro quelli che si fanno male con Kinect. Bene. Io direi che possiamo chiudere qua la parte dei giochi giocati. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, La corazzata Kotionkin. Allora, ok, come libro, libro che sto leggendo da 4 mesi, è un libro, uno dei libri più difficili, lo sto leggendo in lingua originale, quindi è uno dei libri più difficili che abbiamo letto, è Infinite Jest di David Foster Wallace, quello che si è impiccato un paio d'anni fa, non so se vi ricordate. Tra l'altro giocando con gli occhiali. Esatto, con la realtà virtuale. No, è impossibile spiegare di cosa si tratti, però è, secondo me, potrebbe essere il libro più bello che abbiamo letto. è un po' a livello, un po' tipo Ulisse di Joyce, no? Quel tipo di mattonaccio incredibile, cioè, però bellissimo. Completamente incomprensibile, capisco perché dici che è incomprensibile. Allora. Sì, cioè, ha una trama che è un po' difficile da spiegare, però, però è uno di quei libri in cui ogni ventina di pagine ti capita lì quella pagina che è alta letteratura, proprio bellissimo. Magari consiglio a chi è incuriosito da questo consiglio di prima comprarsi un libro di racconti, perché il libro sono tipo 1200 pagine, cioè non è, cioè impegnativo, ci si mette del tempo. I racconti, peraltro, di David Foster Wallace sono bellissimi. Ha scritto un libro che si chiama La ragazza con i capelli strani, e quindi nulla. Consigliato. Ripeti il titolo del libro? Infinite Jest. Perfetto. Andrea? Allora, io consiglio anche un libro che ho letto, tra l'altro, adesso quando sono andato alla roba di Sony a Londra in aereo, perché è un libro breve, sono 200 pagine, si legge in fretta. Non credo però esista una versione italiana neanche di questo. Si chiama Born Standing Up, è un libro scritto da Steve Martin ed è una specie di parziale autobiografia che racconta di quando lui faceva lo stand-up comedian, quindi si esibiva in locali, insomma poi è arrivato fino a esibirsi in arene con decine di migliaia di persone che andavano a vederlo. È scritto lui scrive romanzi, fra l'altro. Esatto, sì, Shop Girl, è molto carino. E è scritto molto bene, è molto interessante perché comunque spiega come funziona quel mondo, quell'ambiente, insomma, dei comici che si esibiscono live. E fra l'altro, come qualsiasi biografia di un personaggio pubblico americano, ha anche la parte piuttosto toccante in cui parla del rapporto col padre. Quindi, insomma, lo consiglio perché a me è piaciuto molto e, ripeto, si legge veramente in fretta. Cioè, l'ho letto nel giro di un volo e mezzo di andata e ritorno da Londra. Perfetto, io invece consiglio un film del 1988, perché me lo sono rivisto l'altro ieri e secondo me non se l'è mai visto quasi nessuno, ma è molto bello, ed è D.O.A., Dead on Arrival, e la storia con Dennis Quaid e Meg Ryan, uno dei pochi ruoli di Meg Ryan dove non fa la ragazzetta cretina che manda messaggini per amore, e in thriller dove il protagonista viene avvelenato e si deve scoprire chi è stato praticamente, però detto così una stronzata, il fatto che il protagonista non si può salvare. Il Dead on Arrival è che il protagonista prima o poi creperà, però deve trovare questo l'assassino. È vero per tutti, però sì, ma il fatto che dura 20 minuti quindi non dura due ore. E, è molto bello, un thriller con diversi colpi di scena, lo consiglio, si trova in qualsiasi forma DVD, a prezzi ridicoli ovviamente perché è di quando ero piccolo. Bene. E facciamo un teaser per il prossimo episodio in cui parleremo di Triangle. Esatto. Che al cieco è piaciuto da matti, a me è piaciuto abbastanza e a te ha fatto cagare. No, giusto? Non mi ha fatto cagare, però devo essere sincero, l'idea è molto bella, mi è piaciuta tanto, ma è stata sviluppata malissimo, secondo me, con dei buchi clamorosi di trama. Non fare spoiler, ne parliamo la prossima volta. Sì. Cieco è famoso per avere dei gusti stranissimi. No, ma il film è bello, secondo me il film è bello, però, vabbè, ne parliamo la prossima volta, però ha dei proprio... Basta! È impossibile costruirlo bene. Vabbè, comunque, passiamo velocissimamente alle due mail che ci sono arrivate. In realtà una è stata spedita a tutti i podcast d'Italia, quindi insomma, cosa ne pensate della pubblicità nei videogiochi? Rispondo io. Affascinante che qua a rispondere ci sono due persone che partecipano ad altri podcast. Esatto, quindi, ma forse uno è riuscito a scamparla, Ferruccio. Comunque, sì, probabilmente l'abbiamo ignorato. Sì. Comunque, velocemente, per me basta che non sia invadente. Poi, ovviamente, in un gioco di sport la pubblicità è fondamentale, in un gioco di ruolo potrebbe anche non esserci, perché, insomma, cosa mi fai la pubblicità delle spade, del fabbro, del... Scusa, ti faccio l'esempio, Alan Wake. Sponsorizzazioni. Stavo pensando a Dragon Age in questo momento. Però scusa, già che fai l'esempio di Dragon Age, io sinceramente preferisco la sponsorizzazione di Alan Wake rispetto a Dragon Age, che vado a parlare con un amico e dice: ah sì, ho una missione per te, ma la puoi fare solo se scarichi il DLC. Vabbè, non c'è conflitto. Vaffanculo. No, comunque, pubblicità, basta che non sia invadente, tutto lì, poi a me va bene tutto. Scusate, il fulcro della mail era: cosa siete disposti a subire di pubblicità per abbassare il prezzo del 50% dei giochi? Tantissimo, del 50%. Ma sì, guarda, io anche prenderla in culo. Sì, però a parte il fatto che per ora mi sembra che il prezzo non cali, cioè sia semplicemente un tentativo di fare più soldi. No, ma non calerà mai il prezzo. No, ma cioè, quindi non è un o questo o quello, è questo è quello, che a me dà un po' fastidio, perché se sto pagando per un gioco mi rompe i coglioni di avere la pubblicità di Verizon alla Wake. È vero, però secondo me dipende dal gioco, cioè dipende, allora, ma, scusa, dipende, hai notato? Io, ma sai che io non ci ho fatto caso? Ma anche le energizer, le batterie nel gioco. Ma sì, ma io ho il filtro mentale sulle inserzioni pubblicità. Ma veramente, io nei banner sui siti non li noto mai. Ma tant'è che io faccio sempre notare questa cosa quando si parla della grafica di Next Game. Guardate che se c'è qualcun altro, tipo me, tutto quello che mettiamo nelle colonne laterali non lo legge. Io ricordo che quando erano apparsi i banner sulle finestre dei messaggi di ICQ, e la gente, oh, è uno schifo, ci hanno messo i banner su ICQ, io non me ne ero accorto. Al di là di questo, le sponsorizzazioni fatte nell'ottica del, come nei film, no? Ti metto la lattina di Coca-Cola nel videogioco. Ci sta. Secondo me è ovvio che poi diventano esagerate, e la telecamera puntata un quarto d'ora sopra il marchio Coca-Cola diventa pacchiano. Però alla fine, se fatto, non so come dire, con garbo mi verrebbe da dire, rende più credibile il mondo di gioco in contesti alla Grand Theft Auto che sono... Ma anche in Heavy Rain, se il protagonista usa una macchina, che ne so, una Volvo, cioè, ci sta che usi della roba vera, che poi sì, però, per fare, scusa, per tornare all'esempio di Alan Wake, le pile Energizer avevano la risoluzione delle texture più alte di qualsiasi altra cosa, cioè, c'era questo effetto straniante che erano ad altissima risoluzione e tutto il resto no. Io il gioco l'ho pagato sempre 64 euro. L'hai pagato sempre. Poi fra l'altro se si trattasse di abbassare i prezzi, non so se voi avete idea, ma voi avete idea di quanto, cioè con 30 euro, cioè una pubblicità, mostrare una pubblicità, cioè, vale, non lo so, 5 centesimi, cioè, forse meno, non lo so. No, vale un cazzo. Tutte le volte, cioè, ho parlato di questa cosa con più di uno sviluppatore e tutti mi hanno detto che almeno per il momento si fanno pochissimi soldi con questo tipo di inserzioni e quindi non ne vale la pena se poi devono rappresentare anche dei limiti creativi del tipo sì, ti metto la lattina da Coca-Cola ma il giocatore non gli può sparare. Cioè non ha molto, secondo me non è una cosa che, considerato come funziona la pubblicità, non ci si fanno molti soldi. Cioè se fai un milione, se mostri un milione di volte una cosa, un marchio, quello che ti danno è, non lo so, cioè è poco, non so, 1.000 euro, cioè. Una caramella, come una volta quando ti davano il resto, non c'ho 50 lire, ti do la caramella, giusto, però, sai, magari lo usano per pagare gli straordinari a quei poveretti che fanno 14 ore per finire il crunch time. Cazzo, se usano 1.000 euro per pagare gli straordinari, cioè, è comunque più di quello che gli darebbero altrimenti. Bene, e l'ultima mail è stimatissimo utente di Davide, scusate, la mail di prima era di Bruno Marconi, e invece la mail seconda è di Davide, che dice: stimatissimo Tentacolo Viola, c'è una cura per chi si sente ancora orfano della mitica testata Zap? E qua stiamo parlando di gente vecchia. A tal proposito, potreste ritagliare un angolo del vostro podcast per ricordare i bei games andati? I suoi retro games preferiti sono Tarkan, Creatures e Monkey Island. Grazie, è bella la canzone di Game Petwork, lo diremmo a Paolo la prossima volta che c'è. E noi sì, ogni tanto mi viene la voglia di parlare di roba vecchia, ma alla fine della fiera ne parliamo lo stesso. Ma infatti avevamo anche la rubrica in cui lo facevamo. Avevamo la rubrica, poi solo che gli anni fighi sono finiti da raccontare, insomma. Cioè. Beh, io comunque ho due risposte per questa persona. Sì. Una è che Bonaventura di Bello, che faceva Zap, per un certo periodo perlomeno, sì. Ho visto che è uscita in edicola una rivista che si chiama Zap, curata da lui, che però parla tipo di iPhone, Android, iPad, eccetera. Veramente. L'altra cosa è un consiglio: riguardati i filmati di Terry Kane su YouTube, l'ho fatto e ho pianto molto. Perché io l'ho rigiocato, emulato con l'emulatore dell'Amiga, effettivamente la memoria fa brutti scherzi. No, infatti, vabbè, ragazzi, non giocate i giochi vecchi. No, ma sicuramente, ma probabilmente da giocare rimane ancora bello nell'ottica di ok, sto giocando quel tipo di cosa lì vecchia, però da vedere veramente. veramente non si può più guardare. Cioè, sì, ti rendi, mentre altri giochi vecchi pagano tantissimo gli anni, però vedi che comunque dietro c'era un certo tipo di, non so, di stile, di design che alla fine ancora si difende, pare che non si può guardare, è più brutto che non ci si crede. Tra l'altro la cosa tragica è che questo vale per la maggior parte dei giochi occidentali di quel periodo, mentre tipicamente quelli che si salvano sono giapponesi. Quelli di quel periodo sicuramente. Bene, allora direi che siamo arrivati, non è che volevo fare una puntata veloce. E allora, io quando ci sono io non puoi. Io vorrei ringraziare soprattutto Ferruccio, che lo aspettano dei giorni di viaggi, vacanze, ed è stato con noi fino all'ora nona. Grazie. Sì. Grazie a voi, è stato un piacere. Ovviamente ringrazio anche Andrea della solita pazienza di, insomma, anche supportare la registrazione del podcast. Comprati un computer che funzioni. Vabbè, io ringrazierei poi anche Paolo, che era uno dei grandi motivi per cui ho voluto essere qui e non c'è, ragazzi. E ringraziamo Paolo e speriamo che, insomma, abbia risolto o stia risolvendo le cose per cui non è potuto giungere qua da noi. Ricordiamo, suo figlio è posseduto dal demone Pazuzu. E niente, salutiamo tutti. Carissimi, che dire, non ci sono canzoni di Sanremo ancora perché quest'anno abbiamo registrato qualche settimana prima dell'evento, caro Ferruccio, quindi non puoi citare nessuna. Però anche quest'anno c'è Sanremo. E purtroppo si aggiungono sempre cose, Ruby, Sanremo. Che culo. Mamma mia, come vi invidio. E, niente, un salutone a tutti, ciao e grazie, alla prossima. Ciao. Ciao amici. Come sempre i riferimenti del Tentacolo Viola sono iltentacoloviola.splinder.com, il blog dove potete trovare tutte le puntate e anche il link alla nostra pagina Facebook, Twitter al link twitter.com/iltentacolo e ovviamente su iTunes con la chiave di ricerca Il Tentacolo Viola. La mail, come sempre, è iltentacoloviola@gmail.com. Giusto per fare un po' di pubblicità, è uscito il 25 di gennaio la versione gratuita per tutti di Players numero 1, la rivista di videogiochi, cinema, TV e un sacco di altre cose fighissime, e a breve sarà disponibile per i donatori anche il numero 2. Players ovviamente lo potete trovare al sito www.playersmagazine.it. Non l'ho citato durante l'episodio, ma io ho sottoscritto Davide, sono stato ospite in un podcast di Retro Gaming che potete trovare su iTunes cercando Retrocast. Questo è tutto, vi ringrazio, un salutone e alla prossima. Ciao ciao!